Mi dice che ho anche risolto la questione Morgan, che può portare le sue cose lì. Ma dove? In che posto? In che posto? Ah, Stutri! Porca puttana, te l'ho detto! A Villa Savorelli! E i disoccupati e la gente che perde la casa? Ma un artista è più importante, testa di cazzo! È più importante l'arte, perché essa insegna cosa c'entrano gli disoccupati, coglione! Non dire stupidaggini! Un genio va preservato! Se tu hai Michelangelo, lo fai lavorare, testa di cazzo! Non permetterti di fare retorica con me! No, no, no, fermo, fermo un attimo, fermo, fermo, bravo, fermo, fermo. Tu, bravo. Tu vuoi dare, vuoi dare soldi pubblici, esatto. Un posto pubblico, no, un posto pubblico, ma che non gli do niente, gli do uno spazio inusato, vuoto pubblico, perché insegni, perché insegni anche a te, testa di cazzo, non ti permettere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Non ti permettere, non fare lo stronzo. No, non ho detto gioia. Sono 58 giorni che siamo senza lavoro. Vabbè, mi dispiace, per carità. Non te ne frega un cazzo, vero? Certo, me ne frega, sì. È così, perché lui è populista. Bravo, finalmente l'ha capito questa cosa. Bravo. Ma cosa ti devo dire? Non te ne frega un cazzo. No, non è che non me ne frega un cazzo. Ascolta la testimonianza di questo settore, no? Ascolta. Il problema è che sono 58 giorni che ci sono 4.000 padri di famiglia senza lavoro. Va benissimo, sono vicino, vi sono vicino. Cosa devo fare di più? Non ti frega un cazzo perché ti dico una cosa e mi dici che non te ne frega un cazzo. Ma non ho detto che non me ne frega un bucciato. Bravo, Salvini, ti hanno scoperto. Un bugiardo come Berlusconi, bravo. Un bugiardo come Conte, e sei una testa di cazzo come tutti. Hai la possibilità di sollevare i problemi e sollevi le cazzate. Ma quali problemi? Dico, ho capito, un problema serio, non me lo stai ponendo adesso. Ma questo qui fa il populista, poi. Ma vai sul tuo telefonino, la zanzara, WhatsApp. Ma non lo so, ricevo, ma ne ricevo tonnellate. Hai ignorato le testimonianze di questo settore, di questo signore. Articoli di giornale. Pronto, ciao Cruciani, sono Amedeo. Senti, io ti voglio bene. Se ti avessero sequestrato, tu dopo 18 mesi saresti tornato vestito da odalisca col Corano tatuato sulle tue chiappe sovraniste. Bello, Cruciani. Ciao, ciao Cruciani, ciao. Perché se tu vuoi fare la volontaria, siccome ormai qui in Italia è Africa, falla in Italia! Vai ad aiutare le case che sono occupate dai Rom, la gente che muore di fame. Fai la volontaria in Italia, invece di andartene in Somalia! Poi come si è presentata? Bardata! È diventata islamica! Adesso si chiama Aisha o Asha, che cazzo! Ospitai di nomi! Nulla vieta a questi cosiddetti volontari di andare in zone pericolose, ma lo devono fare a loro rischio e pericolo. Io ne ho le palle piene di sta gente! Via! Da questo canale! Amo quanto mi ami! Dillo a tutto il mondo! Tutta la vita! Il collegamento via Monterosa 91 2149 Milano, il sottoscritto vivo e vegeto! Insomma, con qualche acciacco! Con qualche acciacco! Ovviamente, ovviamente, prima o poi questo indirizzo lo darò in pasto. Prima o poi lo, ce l'ho sulla punta della lingua. Capito? Sulla punta della lingua ce l'ho l'indirizzo. Sì. Mi scapperà prima o poi, mi scapperà. Sulla punta. Sulla anche punta ce l'ho, sulla anche punta. A me scapperanno informazioni su questo pool di avvocati padovani già al lavoro, ma non mi fare padre. Parlare ora. Io ho le mie cartuccelle, amico caro, su Padova e su quanto. Ho tutto in mano, ho un dossier dettagliatissimo su quella città. Beh, certo, tutto, ma ne ci sei dato e ci hai vissuto, ma non per quello, non per quello, amico caro, non per allora, quello, ma ne parleremo nel corso della trasmissione. No, non ne parleremo, quello è sicuro. Comunque ragazzi, in diretta dal bunker costruito dal Mossad, David Parenzo, eccolo qua. Buonasera cari amici, in realtà io non volevo parlare di questi avvocati padovani che sono già impegnati, vabbè, come sapete, in una... Ma ne avremo modo. Volevo semplicemente citare il grande Shakespeare, Amleto. Sai cosa diceva il principe Amleto? Diceva, sì, cosa diceva? Il cose. Tempo è uscito dai cardini. Dannata sorte essere nati per rimetterlo in sesto. Ecco, io mi sento come il principe Amleto dentro questa trasmissione, dove il tempo è uscito dai cardini. Bisogna rimettere a posto le cose. Bisogna fermare l'odio, fermare questa ondata di populismo e sovranismo. Il tempo è uscito dai cardini. Dannata sorte essere nati per rimetterlo in sesto. Lo trovo bellissimo. Secondo me possiamo chiudere qua. Ma cosa sei? Ma è lirismo. È lirismo puro. È Shakespeare. È Amleto. Ma cosa caro, sei diventato? Amleto. Cosa sei Vabbè, diventato? Torniamo, dai. E sei cosa l'unico abbiamo? Esempio. Nazisti? Sei l'unico menù? Esempio di personaggio che viene in una trasmissione che odia. Cioè, sei l'unico esempio vivente al mondo che in una trasmissione sostanzialmente co-conduce una trasmissione che però in fondo non sopporta. Detesta. No, in fondo. Detesto. Io comunque, detesto ragazzi, questi che chiamano, li odio. Posso dirvi una cosa? Silvia Romano col velo e David Parenzo. E questa sera tutta la verità. Questa sera tutta la verità. In questa puntata riveliamo tutto della terza famiglia di David Parenzo. Una storia tenuta nascosta, una storia tenuta nascosta per implicazioni religiose chiaramente evidenti a tutti, no? Comunque Silvia Romano col velo e David Parenzo, praticamente due gocce d'acqua. Andatevi a vedere gli innumerevoli meme e quant'altro su internet. Ma non vorrei creare un altro danno a questa povera ragazza, simpatica ragazza. Stasera tutta la verità, stasera tutta la verità, nient'altro che la verità. La terza famiglia di Parenzo e gli imbarazzi per quel velo, perché ovviamente gli imbarazzi. Non c'è nessuna terza famiglia, né nessun imbarazzo, non me ne frega niente. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Allora io partirei con Briatore. Partirei con signor Briatore. Ieri sei stato morbido con Salvini, nonostante avessimo tutti i tuoi avvocati schierati. Morbidissimo. Ad accarezzare il leader sovranista. Scusa Matteo, allora dimmi che cosa pensi dello sbarco di quella islamica dall'aereo. Scusami Matteo. Ma che scusami di che? Scusami di cosa? Matteo, dando il tu al potere. Il tu lui dà al potere. Ma quale potere? Sta all'opposizione, essendo quale vicino potere? Essendoci vicino, correo diremmo quasi, no? Vicino, vicino. Scusami Matteo, come ti è sembrata la scena di questa islamica bardata che esce? E lui è stato più moderato di te, lui era in imbarazzo da te. Comunque posso dirti era che la tua citazione ieri, la tua situazione e la tua citazione di prima è sbagliata, cioè la tua citazione di prima è sbagliata. No, è sbagliata. Rivolgiti dalle parti di casa tua che me lo sta segnalando. Comunque Briatore Briatore ha dato fastidio la palandrana di Haji Abla. La palandrana. Come l'ha chiamata? La palandrana, la palandrana, sono Briatore, senti. Ma come si permette? L'unica cosa che non sono contento è che quando è scesa dall'aereo con quella palandrana che rappresenta Al-Shabaab, le donne di Al-Shabaab, non mi sembra che fosse una gran pubblicità per allora, Al-Shabaab. Si è convertita, come sappiamo, all'Islam, ora andiamo in pubblicità e poi arriviamo No, si è convertita all'Al-Shabaab, c'è una bella differenza tra l'Islam e Al-Shabaab. Bravo. Non credo sia così, lei ha detto che si è fatto una conversione libera all'Islam. Bravo, all'attacco Briatore, giusto quello che dice, non si è solo convertita all'Islam, si è convertita a una parte estremista dell'Islam. Che ne sa quel signore che vive a Monte Carlo e che l'unica cosa che ha visto del Kenya è il suo resort multimiliardario? Che ne sa dell'Africa questo signore? Che ne sa della Somalia? Molto più lui del Kenya, un altro discorso, non c'è dubbio. Ma quello non ne sa un cazzo del Kenya, sa del suo resort di Malindi e basta, lo ha visto solo per multimiliardari, non ha visto un cazzo dell'Africa quel signore lì. Vive a Monte Carlo, si lamenta e da Monte Carlo vola nel suo resort in Kenya. Parli come Vola sola, nel, sì, perché mi è dentro di me ormai. Mi è, si è poi, adesso ci andiamo su Feltri, adesso ci andiamo. Comunque, ragazzi, un'altra vergogna. La vergogna incredibile non è Feltri, è il governo. Tutti voi ve la prendete con Feltri, con Sallusti, con Porro, Feltri, con chi ha criticato la conversione, porro, con chi si è permesso, con chi si è semplicemente permesso di dire che quella scena all'aeroporto era raccapricciante, voluta dal governo, voluta dal governo. Le avete criticate queste persone, le avete massacrate, gli avete dato dei razzisti, fascisti, ma eccetera. Massacrate? Ma la vergogna è un'altra. La vergogna è un'altra. Feltri, poveretto. Oggi, ragazzi, il portavoce del gruppo terroristico, che ha prima catturato e poi rilasciato, lautamente pagato, la signora Silvia Romano, fa un'intervista. In cui dice: i soldi del riscatto per finanziare la jihad, compreremo delle armi. Cioè, lo dicono, non siamo nemmeno capaci di non farli parlare, questi qua. Questi prendono i soldi e poi ci pigliano parlare? Per il culo. Ma non sei tu quello che ci devono parlare? Ma tutti, certo. Parlano tutti, intervistiamo tutti. Dove l'ha detto? A Fuori dal Coro, da Mario Giordano? No, ragazzi, ci pigliano per il culo. Ci pigliano per il culo questi qua. Dicono: sì, compreremo certo, le armi. No, prende per il culo, sono dei terroristi, punto. Sono dei criminali. Fammi sentire Sgarbone. Sgarbone scatenato, vai. La ragazza in esame ha messo il costume della banda terroristica, che non ha niente a che fare con l'ISMA, ma ha a che fare con l'azione criminale di uccidere centinaia di migliaia di persone. Allora io mi chiedo, perché sia chiaro che il paragone vale per mafia, nazismo, terrorismo, se dopo la liberazione dal fascismo e dopo la fine del dominio nazista un partigiano avesse visto un collaborazionista venire con una divisa della SS, l'avrebbe abbracciato? Noi abbiamo abbracciato una nazista che ha aderito a una banda terroristica, ostentando le insegne del nemico dello Stato. Vittorio, a cui lo Stato dà i soldi perché si siano non è così, Vittorio, e altre vittime. All'attacco! No, ma l'attacco, Corno, all'attacco! Anche Porro sobriamente dice: non è così, Vittorio. Tu hai tagliato, ovviamente, ma Porro, l'hai tagliato perché hai fatto un'operazione di taglia e cuci per far sentire solo quello che ti pare, proponendo quindi l'ennesima fake news. Ma che fake news? Nicola Porro, che una volta era un liberale alla scuola di Antonio Martino, è cresciuto adesso lì a difendere questo sovranismo da straccioni e questo anti-Islam da accattoni, che nulla ha a che vedere. Fammi sì, questo Sgarbi, è anti-Islam da accattoni, da Porelli. Ti piacciono i terroristi, ti piace il gruppo in Somalia, gente che non sa neanche dov'è sulla cartina geografica la Somalia, gente che non ne ha mai sentito parlare. Quella veste, quella divisa sia... non indica una fede, indica... Ma non possiamo pensare, Vittorio, scusami, non possiamo attribuire a una ragazza che per 18 mesi, è verissimo sulla quella divisa, ne abbiamo parlato per tutta la trasmissione, e non c'è una libertà ma non possiamo attribuire a una ragazza che per 18 mesi ha avuto un lavaggio del cervello... Il signor Conte che doveva dire: si presenti con l'abito che rappresenta la nostra civiltà, non la civiltà dei terroristi. Giusto, tutto corretto. Ma perché devi imporre a una persona quale vestito mettere? Che peraltro nulla. Ma è il vestito somalo, così, tipico delle donne della Somalia. No, che, non fare quest'errore, oggi, stai zitto un attimo. Oggi la madre di Silvia Romano. Ma leggetevi l'articolo di Manconi su Repubblica. La madre di Silvia Romano. La sindrome della Gioconda. La madre di Silvia Romano. Pagina 28 Repubblica. E di nuovo a leccare il culo. La madre di Silvia Romano ha detto: chiunque tornerebbe convertito dopo 2 anni. Provate a mandare un vostro parente 2 anni là e voglio vedere. Però posso segnalare, con tutto il rispetto, naturalmente, attacca pure la madre, con grandissimo rispetto. Attenti all'attacco, posso giudicare le parole della madre? Le posso giudicare o no? 18 mesi non ha visto la figlia e si trova pure la morale di Feltri, Cruciani, Fuori dal Coro, Del Dubbio, tutta questa gente qua che adesso gli racconta cosa devono pensare. Scusami, prego. No, però posso dire una cosa: se uno si esprime pubblicamente con una frase, fosse anche la madre di Silvia Romano, Alfano. Uno dice, beh, sì, signori, signora mia, non è proprio così. Cioè non è che dopo due anni di prigionia chiunque si sarebbe convertito all'Islam, 18 mesi, 15 mesi, quanti sono? Non, magari lei non ci ha parlato detto, più di te. Non è scontato, lo sai anche tu. Non è che parlato, i prigionieri israeliani in mano a bande islamiche per forza si convertono all'Islam. Di che stiamo parlando? Non è che uno per forza si converte all'Islam. Ma dai, non diciamo cazzate, su. No, a parte poi che la capisco, la rispetto dire, però, e può dire quello che vuole. Però non è vero, non è scontato, ha risposto una giornalista che chiunque ci ha parlato, tornerebbe non lo convertito. Ragazzi, no, la frase è questa, la frase è questa. Chiunque tornerebbe convertito dopo due anni. È una non è vero. Adesso, non è sentiamo vero. Il parere di un'altra persona autorevole, Meluzzi, il Pope. Fermo. Che cosa pensa il Pope? Perché tu sei fatto così. Adesso faresti anche fermo, ascoltare il Pope. Fermo, beh certo, fermo. No, sei tu il vero fascista, per come ti poni, per come parli alla gente. Sei un fascista. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. La qualità dell'audio è pessima. Cioè basta, avete rotto i coglioni, questa è 4 milioni, è tornata col velo, ma so cazzi sui, e voi feve i cazzi vostri, porca puttana, che coglioni. Ma Cruciani, ma sta zitto, che te 4 milioni te ce pulisci il culo con 4 milioni, ma che cazzo ce ne frega, che cazzo ce ne frega, lasciatela in pace sta puretta, porca puttana, minacciala se andati. Che idioti, sei proprio un branco di idioti, mandè a fanculo! Allora ragazzi, due perle da oggi, una viene da un assessore di Sorrento, credo in forza al centrodestra, non identificato, il quale si chiama Emilio Moretti, ha scritto: Silvia Romano, l'avete guardata bene, dove li trova altri uomini? Il post è esattamente questo, ma con tutto il rispetto, l'avete guardata bene, lei in realtà non voleva tornare, dove li trova altri uomini? Assessore a che Sorrento. Orrore. Un altro tizio invece, ex assessore. Non l'hai detto di che area è? Non ma l'hai non detto, lo so, ho detto che è di centrodestra, che cazzo so. Ti devo dire? Sai non lo so. Tutto in questo caso non lo hai detto. Ma non sai l'ho tutto detto, lo sto dicendo che questo è un coglione. Va bene, va ma cosa vuol dire? Va bene. Allora, per carità, c'è un altro signore che si chiama Nico Basso, che è un ex assessore consigliere comunale ad Asolo dove? Dalle parti due, no? Un venetista, Veneto, questo qua in Veneto, Veneto, Veneto sì, dove sì. Esattamente? La sai la provincia o no? La sai la provincia, provincia o no? Di Treviso, se non ricordo oh, male benissimo. Provincia il di quale Treviso. Ha scritto semplicemente una parola: impiccatela. E di che partito è? Neanche qui è silenzio venetista, assoluto è indipendentista questo. Veneto indipendentista Veneto, certo, esatto, bravo. Dove sei Veneti? Dove sei? Poi ha scritto anche te altre cose, quella troia, eccetera, eccetera. Questo signore è Nico Basso. Ricordati bene, mettiti bene in testa questo nome, Nico io Basso. Ce l'ho, Nico Basso. Ce l'ho appuntato perché. Allora, io non capisco che cos'hai contro, ancora contro Libero. Mi hai svegliato questa mattina rompendomi i coglioni. Perché, rompendomi i coglioni. Leggi, perché leggi dice, il titolo. Voglio, leggi voglio, l'editoriale di Feltri. Ma no, che, so, leggi qual è il problema? Leggi, non leggi ho l'editoriale di Feltri. Allora, il problema è che per guidare la macchina. Sì. Bisogna fare dei test, degli esami, sì, e devi sì. avere la patente. Sì. Dopo invece, una certa età, dopo sì. una certa età, la patente te la tolgono, perché se tu non hai più i riflessi pronti, eccetera. In particolare, se sei in stato di ebbrezza, perdi punti, te la ritirano la cosa patente. Vorresti dire? Cosa vorresti lui... Non lo so, non lo so. No, la stessa vabbè. Cosa vale troppo, per i giornali. Per guidare i giornali non si possono guidare in stato di ebbrezza quando si guidano i giornali. Guarda, ci sono dei passaggi di quell'articolo, di quello che tu chiameresti editoriale. Beh, certo, non c'è dubbio, certo. Allora, il titolo è questo, se stava no, bene in Africa. L'editoriale è quello di Molinari, vabbè, di Scalfari, dai. È quello di Luciano Fontana, è quello del direttore se del Sole 24 Ore, Africa, Fabio Tamburini. Se stava bene in Africa, perché è tornata? rapita da una banda di tagliagole, è riapparsa convertita, sorridente, con nome di una sposa di Maometto e convinta di essere stata libera. Pagare per una giravolta del genere è beffardo. Scrive in particolare Vittorione Feltri. La signorina afferma di avere soggiornato bene nelle celle musulmane, di avere trascorso in Africa giorni divini al punto di essersi convertita alla religione di Allah. Ha letto il Corano e ha capito che i musulmani hanno ragione. Niente di sconvolgente avviene di innamorarsi dei carcerieri e dei loro costumi. Pare addirittura che Silvia si sia sposata felicemente con uno di essi. E a questo punto scatta la domanda: se tutto il presente racconto è veritiero, per quale motivo lo Stato si è mobilitato allo scopo di agevolare il rimpatrio di una tizia che era a suo agio in compagnia dei terroristi intenti a sfruttarla per incassare denaro nostro? Tutti noi eravamo sicuri che Romano fosse stata sollevata dall'incubo della reclusione, invece abbiamo scoperto che la sua detenzione era una specie di paradiso terrestre. Ma è da denuncia, la famiglia Romano gli deve portare via tutto a libero. La prima cosa che ha detto è che è stata un mese a piangere con la febbre portata dalla Somalia. Il primo mese l'ha passato in quindi tu sei d'accordo che è stata bene, che è una spa in Kenya. Ha detto passato il primo mese ininterrottamente a piangere con la paura di morire, passata, abbassato, dormiva per terra, ha raccontato. Certo, le davano da mangiare, questo ha detto. Il trattare bene relativo alla prigionia è quello che la faceva dormire per terra. Altro buono, altro che una bella carrellata di orrori oggi proprio. La sceneggiata che è venuta ieri a Roma, se era il prezzo da pagare per vedere Silvia libera, paghiamolo volentieri, così come anche i 4 milioni, visto che ormai la frittata era stata fatta, sono 4 milioni che riportano a casa una ragazza, per cui va bene tutto. Chi invece vuole mettere in dubbio alcune cose non può essere trattato come uno sciacallo, perché se c'è una persona che è felice che Silvia in questo momento sia a casa con i suoi genitori, quello sono io. Tu torni a casa e torni a casa in un modo, ti poni in un modo che stai rendendo omaggio a chi ti ha sequestrato, a chi ti ha tenuto prigioniera, insomma tutto quello che sappiamo. E con quasi uno sfregio alla cultura e alla civiltà e ai simboli di chi invece, rischiando la vita e spendendo tanti soldi, è venuto a salvarti. Non è libertà di opinione questa qua, che cos'è? Un insulto? Certo che è libertà di opinione, ma definire sfregio, che è un insulto. Sfregio il vestito che lei si sarebbe messa, sfregio. Certo, è uno sfregio, perché è il vestito dei rapitori. Disse il direttore del giornale che scrisse: è stata la culona, riferito alla Merkel, lui che stava per far scoppiare una guerra con la Germania. No, lui all'epoca era il direttore del giornale. Quando fece... Vabbè, ma qual è il problema? Li confondi perché sono talmente due talenti, come vedi, che sei li confondi. Dice: no, guarda che quel titolo forse l'ha fatto il signor Feltico. No, guarda che l'ha fatto il signor Sallusti quel titolo. È stata la culona, scrisse. Disse questo simpatico e divertente direttore del giornale. Una buona notizia. La buona notizia è questa: che Cutolo, che aveva chiesto incredibilmente per il Covid i domiciliari, resta in carcere. Straordinario. Gli sono stati negati i domiciliari. Ora, secondo voi, Cutolo, il grande capo della Camorra, storico capo ormai superato, doveva andare a casa ai domiciliari? L'Italia dice no a queste sconcezze. In un dice ospedale no. Dentro il penitenziario. Ebbene, assistito, come ci sono, può essere curato in cella. Dunque resta in carcere. Deve essere assistito, però deve essere curato. Ma curato, chi dice il contrario? Assistito. Nessuno vuole ammazzare non la gente in carcere. Non è un cittadino, non è uno, esatto. Meno male, bravo. Dillo, perché non ti preoccupare, che ti tuteliamo noi. Ma dillo. Che guarda che a buon diritto si occupa esattamente di questo. Puoi dirlo, un detenuto deve essere trattato. Don Fanzaga, andiamo un po' sulla pandemia che mi ha rotto i coglioni. Ormai non c'è più nessun argomento che riguarda il coronavirus, mi ha veramente rotto i coglioni. Comunque Don Fanzaga, direttore di Radio Maria, come sapete, torna a parlare di pandemia non casuale. Il grande complottismo della Radio Vaticana, senti, Radio Maria. La mia impressione è che non sia innocente questa pandemia, e non sia un fatto casuale. La mia impressione non è quella, è un'impressione, non sono un complottista, è troppo perfetta, è troppo pensata bene, è stata predetta minuziosamente anni fa, è stato già detto, forse il vaccino l'hanno già preparato, e scusate se sono così cattivo nel pensare male. Allora, secondo voi penso male secondo voi dicendo che questa pandemia qui è uno strumento in mano al demonio? Non penso male. Lei è l'unica che vede dappertutto, che sa tutto, e lei vede che il mondo è nelle mani del demonio. Perché? Perché il mondo è nelle mani dell'1% che rimane tutte le ricchezze mondiali. Allora, siccome ricchezze e mammona sono la medesima cosa, allora la Madonna dice che Satana regna e dice che le vostre vite sono in pericolo. Questo ha perso la codenna comunque, questo ha perso completamente la testa, completamente la testa, d'Olivio Fanzaga, completamente la testa, completamente. Alessandro da Torino, avanti tutta, dai Alessandro, vai. Ciao David. Dimmi, no David non Cruzia, sono... Sì, sono... Ieri l'hai fatta fuori dal vaso, Cruzia. In che senso Alessandro? Dimmi. Ieri Matteo Salvini sembrava uno di più Europa, a differenza tua. Ah, amico mio, può darsi che io abbia delle posizioni diverse, infatti hai ragione, bravo, benissimo. Ho delle posizioni molto più dure di quelle che in questo momento ha Salvini, che è molto, diplomatico. Ma come cazzo ti permetti di giudicare una persona? Non sto giudicando la persona, io giudico i simboli, la persona non la giudico, per cui non mi rompere i coglioni con queste stronzate. Io la persona non la giudico, le sue scelte non le giudico, chiaro? Per cui non dire stronzate. Hai detto abbiamo liberato una che veste in questo modo, abbiamo liberato una che... Ma quello è un altro discorso, questo è il governo che ha fatto una figura di merda colossale, portando una ragazza al pubblico ludibrio, mostrandola al pubblico ludibrio all'aeroporto, mentre poteva tranquillamente, certo, perché i colpevoli dell'odio nei confronti di Silvia Romano sono certamente quegli stronzi là che la insultano, ma è anche il governo. Poteva portarla tranquillamente a casa senza fare quella passerella vergognosa all'aeroporto. Dai, ma dimmi Alessandro, non ti sei posto nemmeno la questione che questa ragazza magari è stata segnata psichicamente. Ma quello è un altro discorso, ma cosa c'entra quello? Quelli sono altri dettagli che riguardano la sua vita privata, che non mi interessa la sua scelta se è vera o non è vera. È un altro discorso, no, a me interessano i simboli pubblici. Pubblicamente quella persona è stata esibita dal governo, perché poteva essere evitata questa cosa qua, e si è presa purtroppo insulti, odio eccetera, e si è purtroppo mostrata con questo abito che appartiene a milizie islamiche terroriste. Non questo è un abito della milizia, non è un abito delle donne. Vabbè, della milizia vuoi, non è un abito delle donne della milizia. Però ragazzi, questo che dice fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Go Shawty, go, go. Parla di troie. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Mi scopo Giusy Ferreri. Io oggi sono andato a fare un giro in bicicletta a Milano, non so se alcuni di voi hanno preso la bici legalmente, con la mascherina, a distanza. No Andrea, la bici non l'ho rubata, me l'ha prestata il mio amico Emanuele, sono ancora in grado di andare in bici senza rubarla. Tornata a casa Silvia Romano, dopo mesi e mesi di rapimento io in Africa per mano dei terroristi islamici. L'avete vista, scende, è il momento della festa, quindi la lasciamo all'abbraccio dei suoi genitori, dei suoi parenti, dei suoi amici. Certo, vederla scendere dall'aereo di Stato italiano, onore ai liberatori, agli uomini e alle donne dei servizi di intelligence. Un saluto a Francesca e al suo compagno che fa la notte al pronto soccorso. Onore ai medici, agli infermieri, ai volontari delle ambulanze che sono sul pezzo. Sono stato all'Hotel House, a proposito di spacciatori, palazzi abitati da tanta gente per bene e da qualche spacciatore di troppo, e quindi onore alle forze dell'ordine che fanno un po' sempre di pulizia onore da quelle parti. Comunque tu non dici una cosa, caro Parenzo, non dici una cosa, sempre onore, sì, sempre onore alle forze dell'ordine. Va bene, si potrà dire onore alle forze dell'ordine, ma è proibito dal mondo del politicamente corretto. Ma quale politicamente corretto? È un vecchio vezzo della destra italiana. Onore, onore, perché si diceva onore a sua eccellenza Benito Mussolini. Ma vaffanculo. Ma che c'entra? Un saluto ad Ale, saluti da Monza, siamo saliti in Serie B, te, onore al Monza tutti. Calcio. Onore pure al Monza. Onore pure anche al Monza Calcio. E viva, dai. Comunque, questo signore, che è il portavoce del gruppo islamico che ha rapito la signora Silvia Romano, oggi ha detto anche un'altra cosa. Che la signora Romano, oltre a dire naturalmente esplicitamente che i soldi presi servono per comprare le armi, cosa che sappiamo anche però sicuramente non servono per comprare dei libri di Einaudi. Però diciamo che i terroristi non leggano Einaudi, mi sembra una cosa è sicuro. Non detto, una cosa è sentirlo proprio dalla viva voce di questo stronzo, capito? Il punto questo. E ancora devo sentire l'unico rimprovero che posso fare alla signora Silvia Romano, l'unico piccolissimo rimprovero. Scusami, ma tu ti immagini se i terroristi avessero detto: guarda, abbiamo preso questi soldi, questi 4 milioni di euro per comprare i libri di Mario Giordano. Tra l'altro l'hanno detto, detto, ma tra l'altro l'hanno detto per comprare che hanno comprato i libri di Mario Giordano. I libri di Mario Giordano. Abbiamo chiesto 4 milioni perché vogliamo l'opera omnia di Mario Giordano. Non farebbe notizia, sbaglio o no? Cioè, ovvio, questo farebbe notizia. Non fa notizia il fatto che dei terroristi dicano: compreremo delle armi. Però se uno lo sente, da uno, è diverso dal fatto che tutti noi sappiamo. Sì, comunque, certo, questo stesso signore cosa dice? Silvia Romano si è convertita perché ha visto con i suoi occhi un mondo migliore di quello che conosceva prima. Ora voi mettete a confronto, qualcuno lo ha fatto già, mettete a confronto le foto di Silvia Romano, per carità, le scelte sono le scelte, uno può fare quello che vuole, pure convertirsi al parenzismo. C'è gente malata di mente che si converte al parenzismo, al mondo del parenzismo. Sì, che non è ancora una religione. Sì, però c'è gente che si converte al mondo del parenzismo, io ne conosco diversi, che sono grandi ammiratori, semplici, grandi ammiratori del parenzismo. Normali, certo. Gente che si converte al crucianesimo, per esempio. Sì, ecco, lì siamo già in un altro ambito. Avrà più valore dell'Islam il crucianesimo? Sì, sì, posso dire sì. Lo posso dire, senza esaltarmi troppo, i valori del sottoscritto sono più degni di quelli dell'Islam. Lo posso dire o non lo posso dire? Allora, se vedete le foto dell'Islam, sì, dell'Islam in generale sono molto più degni. Le foto, sì. Finisci, perché poi c'ho anch'io da dire una cosa su un signore della Lega che si chiama Morelli, che ha pubblicato la foto della signora Romano prima, in minigonna. Quello sto dicendo, le foto in minigonna e la foto di lei bardata, diciamo, da islamica. Una vergogna che l'abbia fatto Morelli, proprio una vergogna. Ma un uso politico del sequestro ha fatto. No, sta un dicendo, politico sta dicendo del sequestro liberata del da cosa? Non mi sembra la grande liberazione quella là. È prigioniera dell'Islam, è ancora prigioniera dell'Islam. Ma come si permette di usare la giovane ragazza Romano? Come si permette di usare la ragazza per la sua bieca propaganda? Ha usato Silvia Romano per fare la sua sporca propaganda. Quale delle due foto preferisci te? Quale delle due foto preferisci? Quella in minigonna di Silvia Romano oppure quella completamente ricoperta? Ma io dico, siccome non la conosco questa ragazza, siccome non la conosco, se questa ragazza è felice, va bene, per carità, tu preferisci il mondo in cui Alessandro Meruzzi era vicino al Partito Comunista Italiano o il mondo in cui si spaccia per Pope Alessandro Primo della Chiesa autocefala con quella barba e quel falso Pope? Anche lui ha avuto la sua evoluzione, perché non pubblichi la foto di Meluzzi negli anni 70 e 80 e poi la foto di Meluzzi oggi? Perché non lo fai? Fammi una boccata d'aria, ma noi. Ecco, Alessandro Primo. Sì. Esatto, senti, della Chiesa autocefala, vai avanti perché il delirio continua. Noi Alessandro Primo? Vai. Noi Alessandro Primo. Ecco. Sì. Al secolo Alessandro Meluzzi, primate al della secolo. Chiesa ortodossa italiana autocefala, antico orientale. Ecco. Mauro. Questo è Meluzzi oggi. Mauro. Se il cicismeo si tace un attimo, che rompe la minchia. Allora, ci stiamo meravigliando di questo governo di incapaci. Quando vi ricordate a Rambo che arrivava col bazooka? 400 miliardi di minchiate. E allora? Buona fede fa i decreti il lunedì dopo la trasmissione di Giletti, dove gli dicono come ci si comporta. Per non parlare di Romano. Romano è una chicca. L'altra volta ha ripreso da Del Debbio il sindaco di Messina per il funerale. Sì. Romano certo. Che si è scordato che ne ha liberato 400 e li ha portati con l'aereo a destinazione. Romano che fa la lezione a De Luca. Vabbè, Mauro fa la lezione a De Luca. Vabbè, lasciamo perdere. Di cosa volevi parlare, Mauro? Però non volevi parlare di cose vecchie, passate, no? No, io volevo parlare della liberazione di questa ragazza, per carità. Mauro da Messina. Una sciagura, uno dei migliori spot contro quella città, purtroppo. Il Cicisbeo che parla, quel Cicisbeo è frutto una come città il COVID, meravigliosa. Dalla Cina proviene. Perché lui una città proviene meravigliosa un che c'ha la fontana di Orione. È andato a male. Il preservativo cinese stupendo. Che è andato a male. Quindi provieni come il COVID. Tu distruggi cinese. Il turismo, Cruciani, stai distruggendo il turismo alla città di Messina. Tu sei il peggior spot per la tua città. Barru, senti che sentilo. C'è scritto testa di cazzo. Piacere Parenzo, come ti chiami tu? Tu ti chiami testa di cazzo? No, io mi chiamo Piacere Parenzo. Ma io non ho capito, scusami, questo signore si chiama testa di cazzo, cioè testa è il nome, cazzo di cognome, non ho capito. Piacere, David Parenzo, piacere. Tu sei il povero delle teste di cazzo. Piacere, David Parenzo, piacere. Ma il suo, qual è il nome, qual è il cognome? Qual è il suo? Scusi, nome e cognome. Pure al Papa. Piacere Parenzo, piacere. Scusa, si chiama lui però, si chiama testa di nome e cazzo di cognome, non ho capito. Con questo Cicisbeo non si ha più. Dimmi, perché Mauro. In Cicisbeo Messina è una città distrutta merda, da questa gente. La gente non andrà più a Messina. Stai distruggendo la città. Grande comunista di merda. Difende i nigeriani. Difende i somali. I nigeriani. Caro Cicisbeo, ti regaliamo cosa due bei nigeriani e te li porti a casa e li spompini. Ma cosa uno vuol... la mattina e uno la sera. Okay? Ma lei abita a Messina città proprio. Sì. Lei può ricordarmi per chi ha votato alle ultime elezioni per fare un identikit preciso? Quando si arriverà alle elezioni, dopo le elezioni, sì. Vorrei andare a fare pompini al porto. Hai capito? Sì. Pompini al porto vuoi andare. Intanto ti confezioniamo due beni nigeriani, li portiamo a casa. Perfetto. E gli spari dei pompini. Possiamo, abbiamo capito. Adiuvandum. Aspetta, Mauro. A beneficio degli ascoltatori, possiamo ricordare qual è il suo partito di riferimento a beneficio degli ascoltatori, che così si fanno un'idea chiara del per linguaggio di questo signore. Per chi voti, Mauro? Mauro? Voto per il centrodestra, quello che non ho altre domande, vostro onore. Non ho altre domande. Non ho altre domande. Ecco il classico elettore. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Tuo compare lì al governo. Questi sono i governi di scherzi a parte. Abbiamo il governo di scherzi a parte. Uno dei peggiori spot per la città di Messina. Scusami, Mauro, ma non ho capito. Devono pagare le pensioni, non si trova un cazzo. Scusami, Mauro. Questo secondo me è pure pensionato, questo qui. Questo qui, la cosa che mi rode il culo è che io a questo gli sto pagando la pensione, capito? A me mi rode il chiccherone perché ti pago la pensione a te, capito? Mi rode perché io ti sto, e anche Cruciani, tu stai pagando la pensione a sto mentecatto qua. A questo gli stiamo pagando la pensione a sto mentecatto e telefona pure, non ha nulla da fare. Io gli pago la pensione e questo telefona alla radio, cioè ci rendiamo conto? Sei un cicisbeo di ti sta senti, poco di manca. Io dopo siccome ti pago la pensione, sei un mio dipendente. Zitto, sei un mio dipendente perché ti pago la pensione. Zitto, sei un mio dipendente. Zitto. Zitto, sei un mio dipendente. Ti compro per zitto. Poco a te, che paghi? Zitto, che ti degenerato. Zitto che ti pago la pensione io. Ti pago la pensione. Zitto, dipendente. Sei un mio dipendente. Zitto che ti pago la pensione. Zitto sei che ti pago la pensione. Silenzio. Silenzio. Fermi tutti. Che ti pago la pensione. Fermi tutti. Ho visto ieri io scendi andare di cop qua qua qua qua. Andare a comprare qualcosa di cop cop cop cop cop. Ho detto polizia dice di me vai a casa, non posso vai dentro, compra qualcosa. Ha paura di coronavirus. Run. Ha paura di coronavirus. Run. Denunciato Conte, non so se ha detto comunicato stampa. Pure tu hai denunciato Conte. Io ho denunciato Conte perché sono 60 giorni sto a casa. Cruciani, David, scusate, con tutto il rispetto per la Silvia Romano, evviva, siamo contenti che è tornata, ma a noi non ce ne frega un cazzo, noi vogliamo sapere che faccia la commercialista della Clementi, la dottoressa Pina Pitone. Io non dormo più, non mangio più, non vivo più, voglio sapere che faccia, se è una MILF spettacolare o una sciacquetta qualunque, se squirta o se viene normalmente, se ha il cespuglio o è rasata, se ha dei piedi meravigliosi o una cipolla disgustosa. Io questo voglio sapere, voglio sapere chi è la dottoressa Pina Pitone. Grazie, ciao. Questa è una mia umile opinione, giusto? Ecco, se fossi stata io al posto di Silvia Romano, Cianguilli pagava lo Stato per farmi lasciare lì e dire tenetevela pure, vi diamo 1 milione di euro in più, ma lasciatela in Kenya. C'ero io, c'ero io. No, non hai capito? Lì sarebbero stati i somali stessi a riportarla loro con l'aereo di Al-Qaeda in Italia. Avrebbero chiamato direttamente al-Baghdadi e gli avrebbero detto: scusami comandante al-Baghdadi, c'è questa qui che ci rompe i coglioni, rimandatela in Italia. E l'avrebbero rimandata su un aereo dell'ISIS in Italia direttamente. Non si preoccupi, non sarebbe accaduto. Come sono 18 mesi, poteva stare 24 mesi se stava bene, scusate. Ci andavano i genitori a trovarla. Tante soluzioni ci sarebbero state adeguate, non 4 milioni di euro. Cari popolo, siamo contenti, è tornata una vita umana meravigliosa, bellissima e bravissima ragazza, sì, indubbiamente, però è stata bene. È stata in villeggiatura, perché legge che è stata come in villeggiatura. Dura, no? 18 mesi, a 24 mesi non cambiava niente, anche di più. Ma perché 24 mesi? Punto, scusa, a sto punto. L'estetista, l'amica estetista. Comunque ragazzi, ci sono, secondo alcune fonti, in realtà tra stecche varie eccetera eccetera, potrebbe essere addirittura di 40 milioni, cioè 40 milioni, non credo, però alcuni dicono 40 milioni. Alcune fonti dicono. Alcune fonti dicono fonti, 40 ma milioni. Quale fonte? Che fonti hai tu che al massimo senti questa qui? È stata all'INPS tutto il giorno questi quattro scriteriati. Di che fonti parli? Che fonti? Quali? Alcuni dicono 8, alcuni dicono 40, alcuni dicono 40. Alcuni. Fonti, sì, fonti. Fonti. Comunque non so se possiamo dire qualcosa oggi sul commissario Arcuri, quello delle mascherine. Hanno già detto in tanti quello delle mascherine, una cosa incredibile. La cosa pazzesca di questa vicenda di Arcuri, delle mascherine, della 050 che non si può fare, eccetera, è che abbiamo nominato un commissario. Noi abbiamo nominato un commissario straordinario. Beh, quello, per gli approvvigionamenti, male, certo. Che non riesce, certo. Che non riesce a fare delle cose. Cioè, questo è il punto fondamentale. Allora, che cazzo serve il commissario se poi si lamenta con le regioni a turno, con le farmacie, con i distributori, con i laboratori, con le leggi? A cosa serve un commissario? Non serve a nulla, serve a risolvere problemi che non risolve in teoria. Cioè, ragazzi, di che parliamo? Questo Arcuri qua si ingarbuglia, cioè fa casino, accusa quello, accusa quest'altro. Il commissario non deve accusare, deve risolvere problemi, dai. Marco da Milano, dai Marco. Marco da Milano. Lasciamo perdere le questioni morali della conversione, affari suoi, sì. E lasciamo perdere anche i vestiti, queste cose le lascio agli arbitri. I vestiti sono importanti perché dipende, sono dei simboli i vestiti. Bravo, ragazzi, parlane, sono importanti. Sono imp- non è che i sì, non è che i vestiti, ma no, ma non è che i vestiti sono benissimo. Ragazzi, la minigonna è un simbolo della società occidentale, della civiltà occidentale, della liberazione della mica donna. Solo quella, quella roba lì solo è quella. Il simbolo dell'oppressione della donna, che tu lo voglia o no. Poi uno si può vestire come vuole, naturalmente. Uno si può vestire. Giorgio Armani sarà sfiata a Milano, stare contento. l'argomento. Volevo dire che tu ieri hai sostenuto che non bisogna pagare riscatto. Okay, io tendenzialmente, ma non sono il governo, io non pagherei mai nessun riscatto. Sì, cioè, ma non per lei, per tutti in generale. I riscatti ai terroristi non vanno pagati. Non vanno pagati. Guarda che anche Stati Uniti e Inghilterra dice che non li pagano, ma alla fine li pagano. Certo, indirettamente li pagano. Però non è quello. Marco, che vuole? Non ho capito che vuole Marco. Cruciani dice che non si paga il riscatto, punto. Poi, immagino che Cruciani ritenga che i certificati siano persone competenti. Evidentemente il riscatto era l'unico modo per portare la cara civiltà. Può essere, può essere. Allora? Allora? E allora, e dunque? Forse arrivo alla conclusione che Cruciani avrebbe preferito tornare forse in una bara. No, amico mio, no. Ti sbagli, ti sbagli. Ti sbagli. Che c'entra il suo cinismo. Ma nessun sillogismo. Temo che questo ascoltatore abbia ragione. Ma non c'entra un cazzo. Nessuno vuole porre. Nessuno, spiegami. Ma no, nessuno vuole riportare l'errore dov'è cosa? Io non ho detto il sillogismo, spiegami. Ma qual è il sillogismo di cosa? Logica, ma di che parli? Forza. Che non sai che cos'è la logica? Cosa c'entra? No. Ma cosa c'entra? Nessuno voleva Silvia Romani in una bara, figuriamoci io, cosa c'entra? Ma ne sono certo, ti sto solo facendo capire che hai detto una cazzata ieri. Ragazzi, allora pagare gruppi terroristi in linea di massima è sbagliato, sbagliatissimo. Provane quello che ha detto questo signore oggi. Questo, certo, secondo me è sbagliatissimo pagare gruppi terroristi. Secondo me, ma secondo tutti, non dire banalità. E allora? E allora tu ieri hai sostenuto che non bisognava farlo. No, io dico che non bisogna farlo in generale. Ma anche secondo me, ma parliamo di questo caso in particolare. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ci sono i blitz militari. C'è la possibilità. Ah, eccolo. Certo, Rambo. Blitz, certo. E perché non si non sono capace. Col rischio, sto dicendo che col rischio di uccidere delle persone. Ma cosa? Ma non lo so, ma non c'entra niente. Io sto dicendo semplicemente che pagare, se a te ti piace pagare 4 milioni a gruppi terroristi che poi comprano armi, ma nessuno piace per persone. Va bene così, vivi così. E allora ora punto e basta, a me non piace, poi non ho detto che e l'hanno allora fatto, l'hanno fatto, ieri, punto e basta. Torna indietro e di non volevo dire di non pagare di ma tanto, vai a fare il culo Alberto Genova, povero cretino questo qua, Alberto molto saggio, ma bravo. Quale molto saggio, esatto. Cosa cerca di fottermi su una cosa, su una stronzata, di che cosa ti ha messo al muro, ma scusate, su che cosa, spiegate, ti ha legato le mani, ma io primo non sono dei servizi segreti, secondo non sono del governo. Cruciani, dai, siamo alla radio. Sì, vabbè, dai, forza Alberto, dimmi. Dai, andiamo con l'altro coglione, dai Alberto, dimmi. Allora io volevo dire una cosa, ma io non capisco cosa c'entra questa ragazzina, una ragazzina di 23 anni, esatto, alla fine è una vittima del tutto, cioè perché non ce la siamo presa con chi l'ha esposta come un trofeo? Non poteva. Ma, non ce, la siamo, ma ce la siamo anche presa con chi l'ha esposta. Infatti, me la sono presa col governo che l'ha esposta al pubblico ludibrio. Solo perché l'abbiamo, ma nessuno l'attacca. Chi lo attacca? Ma chi l'attacca? Ma chi l'attacca? Ma c'è chi l'attacca? Lei, personalmente, da noi viene bastonato. Sentirai più tardi quando chiameremo qualcuno. Ma lei è voluta scendere lei dall'aereo. Con i due quello andava impedito, quello andava impedito, quello andava impedito, quello andava impedito, andava impedito da parte del governo. E allora perché ci stiamo addossando tutte queste colpe a sta ragazzina? Ma chi ha detto che ma c'è ancora un Marco da Milano? No, c'è ancora un nostro Marco da Milano, sto fenomeno. Aspetta un attimo, non c'è più. Dimmi allora. Ma no, è tutto quello che stiamo dicendo in questi giorni, giornali, tutti con lei, perché l'abbiamo vista alla fine, stiamo rosicando perché era vestita così, ma non dobbiamo rosicare, dobbiamo essere contenti che sta ragazzina è qui. Ma chi ha detto? Magari è voluta... Amico e mio, allora, ma non è colpa. Sì, ma la protezione della singola vita umana è una fissazione nostra. Cioè, proteggere la singola vita umana è una nostra fissazione. È una nostra fissazione. Sono più importanti spesso, più della singola vita umana. Sono importanti alcuni principi, secondo me. Poi, per carità, pagano tutti. Per me sono importanti alcuni principi. L'esposizione del trofeo. Vai a spiegare alla famiglia. Ma non me ne frega, la famiglia, giustamente, fa il suo lavoro. Ma che c'entra, vai a spiegare alla famiglia? Lo Stato, cioè, non è che e lo tutti Stato costi fa si riporta... il suo lavoro non di riportare un cittadino italiano al sicuro. Non lo conosce lo Stato, l'anonimato. Hai ragione, era portarla a casa loro in silenzio e poi dire un po' paio hai di ragione, giorni. Hai perfettamente ragione. Ciao. Comunque, caro Davide, nascono anche gruppi su Facebook Silvia Romano e David Parenzo sotto mentite spoglie. Su Facebook, una roba incredibile. Mi dispiace per Silvia Comunque, Romano. Sveleremo, che si sveleremo, sveleremo tutto. Sveleremo tutto oggi di questa terza famiglia di Parenzo. È uguale, c'è tutto da svelare. Abbiamo le cartuccelle, come dici tu. Abbiamo le cartuccelle. Abbiamo le cartuccelle. Non fammi parlare di altre famiglie perché, guarda, ma che famiglie di cosa? Cosa c'entrano le famiglie? No, fammi parlare perché io ho avvocati a Padova pronti e scatenati su questo tema della famiglia. Ma cosa? Ma quale? Ma su che cosa? Tu non mi devi, tu non. Sì, ma sei tu che c'è la terza famiglia con quella che è uguale a te dappertutto. Non mi far parlare perché io ho delle cose in mano che se le dovessi tirare fuori è la fine. Ma la fine su che cosa? Ma delle cose in mano di che cosa? Lascia stare perché qui io ho tutto molto chiaro. Ho tutto molto chiaro. Ce l'ho tutto qui in mano. Attento, perché ho tutti i documenti. Ma documenti ho di che? Gente, ho persone che mi scrivono, ho documenti di cose che sono avvenute, cose anche piuttosto imbarazzanti. Le ho in mano. Comunque c'è gente che scrive: ma chi è la figlia di Parenzo? Quella, il sacco dell'immondizia verde con la foto di Parenzo. No, Parenzo più sacco dell'immondizia uguale. No, la cosa, ecco, no, la cosa che mi dispiace, non tanto me paragonato al sacco dell'immondizia, che non me ne frega nulla, ma il fatto che abbiano messo sacco di immondizia paragonato alla povera Silvia Romano. Cioè, voglio dire, il disprezzo che la rete sta dimostrando verso una ragazza. Sai qual è la colpa di questa ragazza? Quella di aiutare dei bambini in Africa. Un altro che scrive: questa Parenzo, vedi colpa. Che ti abbiamo sgamato, pianta con sta pagliacciata e ridacci 4 milioni. Ridacci 4 milioni. Questa è una battuta simpatica. Questa è simpatica. Però chiedete alla Lega i 49 milioni di euro intanto. 4 milioni e i 49 ragazzi, milioni qui della abbiamo, Lega. Qui abbiamo tutto su questa terza famiglia. A me lo dici. Vai Silvio da Vicenza, vai Silvio da Vicenza. Una domanda chiarissima, veloce anche, ma fino a ieri non bloccavano i conti correnti e tutto per non liberare. Li hanno bloccati, sì, quelli della famiglia sono bloccati. Però hanno pagato per lo Stato, a che cosa è servito? Ma che c'entra? La trattativa la fa. Ma la gente la potrà essere incazzata per i soldi. Sai perché dati? Bloccano la magistratura? Blocca i conti correnti. Non permette alla gente di essere incazzata. Per evitare l'estorsione alla famiglia, bloccano i conti correnti. Lo Stato blocca la magistratura. Appena c'è notizia di un sequestro, blocca. Sto tanto spiegando poi lo questo sommario. Poi la paga, cambia niente. Ma la gente sarà in lei cosa? Tu non vuoi non consentire cambia niente la in che gente... senso? Io pago le tasse per far studiare questo qui, ad esempio. E guarda che come somaro non cambia niente. Pensa te, io pago il 45% di tasse, perché questa è la mia pressione fiscale che ho. Per far studiare questo qua, per far studiare questo qui con questi risultati. Con questi risultati. Quindi io potrei dire: ma perché pago le tasse per far studiare questo qua? Posso dire una cosa? Questa, e invece non lo dico. Questa ragazza era stata mandata da una ONG là che non aveva assicurazione, non aveva un cazzo, eccetera. Tant'è che la Farnesina questo vuole pure fare un altro problema. No, è un altro, la è lui della ONG che non era accreditata e che era molto vergogna, sempliciotta, dai, è un altro. Questo è un altro problema. Ciao, Silvio, sicuramente ciao. Da affrontare. Allora, Daniela Santanchè nei giorni scorsi, credo ieri, in occasione della liberazione di Silvia Romano, ha parlato dell'abito. Contenta naturalmente per la liberazione della signora Silvia Romano, ci mancherebbe altro, però ha parlato dell'abito con cui si è presentata davanti alle telecamere, a mio parere per responsabilità primaria del governo, perché il governo poteva impedire quello scempio all'aeroporto, poteva l'abito. Impedirlo era nelle il dibattito sull'abito, ma l'abito non è indifferente, l'abito se te lo danno i terroristi quell'abito lì, sei il simbolo del terrorismo, dai, su. Quale simbolo del terrorismo? Comunque della Santanchè ha parlato di stupido cencio medievale. Signora Santanchè, buonasera, buonasera. Buonasera a lei e a tutti, buonasera. Eccoci, buonasera, ritroviamo anche Parenzo. Ritroviamo anche buonasera, Parenzo. Buonasera, onorevole Santanchè. Buonasera, buonasera, cara. Buonasera, lei dottore. Si lamenta perché quell'abito non era un Fendi, probabilmente, un Dolce Gabbana, un Just Cavalli, non è scesa con la borsetta di Hermès e i tacchi a spillo. È vero, sono molto più sexy i suoi tacchi a spillo, è molto bella la sua borsa di Hermès da 12.000 euro. È molto bello avere l'acconciatura di coppola quando scendi da un viaggio di questo tipo. Però non tutti portano dietro dei souvenir di questo tipo quando vanno. vanno in posti come quello. Non tutti hanno la fortuna di avere il l'ottimo parrucchiere Coppola o Roberto D'Antonio, altro nostro grande coiffeur di Roma, Scendono dall'aereo dopo aver passato 18 mesi in prigionia e non hanno la borsetta di Gucci, non hanno il tacco 12. A queste ironie chiediamo scusa umilmente. È talmente un'idiozia sentire queste parole che preferisco che parli il suo collega, il giornalista. Io ho detto da madre che sono felice che Silvia sia tornata libera. Devo dire però che tra le immagini di Silvia quando è partita per il Kenya e vederla ieri tornare con l'abito che è il simbolo dei suoi carnefici, dei suoi rapitori, perché ricordiamo che quell'abito verde è proprio il simbolo di una sottomissione. Allora quello che io dico di una sottomissione del clan maschile, allora quello che mi indigna è che è vedere arrivare con l'aereo militare italiano, con la bandiera italiana, col presidente del consiglio italiano, il ministro degli esteri italiani, e vedere questa donna con quell'abito che la divisa islamista, che la divisa dal Shabab, cioè di quelli che sgozzano e rapinano le donne per convertirle. O le fanno diventare schiave e le ammazzano o le convertono. E Parenzo parla di tacchi. Ma quando uno è un cretino. Parenzo parla di tacchi. Devo dire questo. Non è la divisa delle... Lei studi. Io ho scritto qualche libro. E da anni quando lei non parlava nemmeno del fondamentalismo islamico. Correva l'anno 2006 quando ho scritto il mio primo libro su questa questione. Io dico semplicemente che una donna, io non ce ma l'ho, se lo dovrebbe con chi togliere? Si converte, scusi, perché la nostra Costituzione prevede, però una donna deve essere libera per fare questo. Dunque non è libera adesso. Non è una donna in catene che può questo essere, lo vedremo, certo, lo vedremo se non è libera. No, ma adesso è libera o no? Fino 18 mesi con i suoi carnetti, col Corano in mano. Allora, secondo lei... È una scelta libera di una donna. Ma perché libera? La dovete attaccare appena scesa in Italia? Perché? Che ne sa lei? Ma non è così. Non è così. Ma come no? È così. È l'abito delle donne somale e religiose. L'ambasciatore avrebbe dovuto impedire di far vedere quelle immagini a tutto il mondo. Perché la nostra cultura occidentale è la cultura della vita, è la cultura della libertà. Ma ci mancherebbe della libertà anche di vestirsi come ti pare. E di vestirsi come ti pare. L'unico dettaglio che avete saputo dire voi della destra sulla liberazione di questa ragazza, l'unico dettaglio è senza sapere nulla. Senza sapere nulla delle sue condizioni, nulla. Le donne in Somalia, in Kenya, ma quello ci mancherebbe altro. Ma c'è, e infatti ma l'abbiamo liberata. E infatti è stata L'Italia liberata. E infatti è stata liberata, cara onorevole Santanché. Cara onorevole Santanché, infatti è stata liberata. E infatti e è stata riportata in Italia. Cosa serviranno? E perché in Italia se rapiscono mio figlio? E vi siete dimenticati di. Vi siete dimenticati? Ma scusi, lei non l'avrebbe pagato quei soldi? Quei soldi non li avrebbe pagati? Per aiutare dei bambini in Kenya, peraltro, di quello vi siete completamente dimenticati, perché vi siete solo concentrati sull'attaccare il suo abito, di cui non sappiamo nulla. Non sappiamo perché se l'è messo, non sappiamo se è stata la sua difesa, non sappiamo se. Ma è seria quando lei inizia questa discussione seria coi tacchi, chiediamo scusa, certo, chiediamo scusa. Chiediamo scusa se non si è presentata in altro modo, perché è stata prigioniera per 18 mesi, questo dovevate dire, e poi stare zitti e dire evviva che è stata liberata. Aspetta, cercheremo di capire con l'aiuto degli psicologi. Fermo un attimo, che succede? No, che è talmente un cretino, siccome un argomento con quale mi batto da anni, di sentire un deficiente del genere. Ma infatti lo chiedi sui tacchi e sulle cose, che c'è, quelle simboli di libertà. I tacchi sono lì, i tacchi sono simboli di libertà. I tacchi sono simboli di libertà. I tacchi sono simboli di libertà. Meglio i tacchi, meglio Hermès, meglio spendere migliaia e migliaia di euro per vestirsi piuttosto che vestirsi in quel modo. Non dire cazzate. Ma se lei vuole vestire, sapremo tra poco se lei si è voluta convertire all'Islam perché. Aspetta, aspetta, che succede? Che succede? Una cosa veramente, una cosa che, cioè, una cosa grave che dobbiamo capire. È grave, no, è grave come l'avete linciata a 24 ore dal suo arrivo. Quello è grave. Sento, guardi, questo lei è grave. In questo momento ha linciato me offendendo la mia intelligenza, la mia sensibilità. Ma figuriamoci, ho detto, chiediamo scusa se non si è presentata con, con un vestiario a voi comodo, a voi più consono. Ma cercheremo di capire di oppressione, quella roba là, nei prossimi giorni, perché e per come si è convertita. Questo è il tema. Quello è il simbolo della sottomissione delle donne al clan maschile della famiglia. Dai, su, ma lo capisce, non puoi paragonarlo ai tacchi, so che c'entra i tacchi, dai, i su. I tacchi sono una conquista delle donne. Certo, certo, per chi vuole, ma ci mancherebbe altro, anche la minigonna per chi se la vuole mettere sicuramente. L'Occidente è questo, è quello che ti permette di metterti il velo ed è quello che ti permette di metterti i tacchi, dai, cosa no, che no, io ovviamente no, preferisco. No, guardi, L'Occidente è questa roba qua, ti permette di avere il tuo culto, basta che non umili la donna, ma se una donna se una donna si vuole coprire la testa, però scusami Daniela, può fare. Però scusami, secondo te bisognerebbe per esempio proibire, se volesse tornare in Kenya, proibirle di tornare in Kenya? Così? Bisognerebbe proibirle per esempio se volesse tornare in Kenya, Silvia Romano, come mancherebbe dopo che si è pagato il riscatto, dopo che c'è stato un lavoro di intelligence pazzesco e tutto. Ecco, scusi, voi avete sentito dire... Allora anche Abriatore bisognerebbe dire andare in Kenya. Aspetta. Anche Abriatore, impediamo anche Abriatore di andare in Kenya, scusi. Ma che c'entra Abriatore? Dai, non dire cazzate. Glielo chiedo, anche Abriatore in Kenya. A Malindi. Però uno si occupa di Malindi, l'altra di bambini. L'altra... per dire queste cazzate. Sì, lei anche, e anche lei per fare propaganda, anche lei. Perché vi dica la differenza tra Abriatore... Guardi, io adoro Briatore. Sa la differenza tra me e lei? Qual è? La differenza tra me e lei è che a me piace sia Briatore che Silvia. No, no, le dico solo questo, poi me ne vado. Le dico solo questo. Le dico solo questo. La differenza tra me e lei è che a me piace sia Briatore sia Silvia Romano. Silvia Romano va a salvare dei bambini. Ma non stiamo parlando di lei. Briatore crea dei posti di lavoro. Quindi a me piacciono tutte e due. Sto parlando di Silvia Romano. Io entrambi vanno in Kenya. Da donna e da madre delle libertà. Ma adesso non è libera? Secondo te, Daniela, è libera adesso o no? Lei non è libera? No, io credo che queste persone che facciano il lavaggio del cervello, voi sapete che cosa fanno? Questo può raffiscono essere, certo, le donne o per schiavizzarle, ammazzarle o per convertirle. Questa è la storia vera. Allora questo io può essere, certo, che il governo italiano, e l'abbiamo riportata qua per fortuna, per casa, buca per buca, e stanare questi fondamentalisti, questi terroristi islamici, perché non deve diventare che se tu rapisci una donna, tu terrorista, fondamentalismo islamico, io ti pago e finanzio i tuoi attentati terroristici, non ti finanzio per persone come questa gente che ammazza. Dunque tu non li avresti pagati i soldi, cioè andava liberata in un altro modo. È andata ad aiutare i bambini a casa loro. Era andata ad aiutare e aiutarli a casa loro. Allora, tanto ci sono delle responsabilità delle ONG, perché io non certo, so non se voi siete informati dove era, in che zona era. Questo è una zona pericolosissima, dove tutti avevano sconsigliato che questa ragazza andasse lì, perché è noto che quella zona è Kenya, pericolosa. Kenya. Ma come ti è apparsa quando è tornata? Perché qualcuno dice che ha detto di essere stata bene, oggi Feltri scrive. No, se è stata... io devo dire una cosa, io non so se mi sbaglio, magari mi sbaglio, non sono stata così attenta, ma io non ho sentito una parola dire grazie Italia, grazie. Si è sbagliata, purtroppo non l'ha sentita. Purtroppo ha detto grazie a chi mi ha liberato, grazie, sono contento di essere tornata nel mio paese. Non ha detto grazie Fratelli d'Italia, questo forse non l'ha detto, è vero, non ha detto grazie Fratelli d'Italia, questo è sicuro. Questo è probabile. Questo va bene. Ha detto perché forse in 18 mesi non si è occupata. Non ha detto la parola Italia. Avrà detto la parola Fendi. Ho capito, dai, ragazzi, ma cosa dice? Con addosso il simbolo dei suoi sequestratori. Dai, su. Non ha detto grazie Italia, non l'ha detto. È un tema alto, quindi anche se il mio sguardo c'è. Forse però ha detto Forza Italia, forse però ha detto Forza Italia però. Ma vedere quell'immagine. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Ma Cruciani non dice niente, non ha detto grazie Italia. Il simbolo dei suoi sequestratori ha fatto male, credo, a tutta l'Italia. Perché noi non abbiamo detto grazie Italia adesso. Per la libertà, noi abbiamo combattuto per i tacchi, per le minigonne. E tu parli, parli di tacchi e delle minigonne per pigliare per il culo. Certo. E tu parli di tacchi e minigonne per pigliare per non il culo. Non ha detto dai. Grazie Italia, capito? Adesso è l'accusa, ciao, e non ha detto ciao, grazie presto, Italia. Ciao. Incredibile. Ciao. Incredibile. Hier nicht mehr raus. E che cos'è? Tu come mi fai godere, Cruciani? Devi impazzire. Ti deve venire il fegato grande come una palla da calcio, Cruciani, come godo! È tornata islamica, come godo! Devi impazzire, sfigato! Sei uno sfigato! Ti farei stare 18 mesi in mano dei carcerieri somali, porco Giuda, e voglio vedere come torni, se torni. Perché lo sappiamo entrambi che per te col cazzo che vengono cagati dei quattrini, brutta merda, anzi spero che lo Stato ti lasci marcire a Mogadiscio, infamone, merda. Sono convinto che tu, Cruciani, piuttosto di sopravvivere in un campo di prigionia di Al-Shabaab, gli davi il culo, perché tu sei una puttanella, ricordatelo. Gli avresti dato anche il culo a quelli, ok? Di no, merda. Che trasmissione, caro David, che trasmissione, amico mio, da solo. C'è qualsiasi cosa, c'è qualsiasi cosa. Sempre di fronte alle cose, sempre da solo mi lasci, sempre da solo. Vabbè, perché in fin dei conti ero d'accordo. Sempre dalla ero d'accordo. Ma qual è il problema? Ero d'accordo. Chiediamo scusa se non è scesa dall'aereo con un abbigliamento che a voi piace. Devo dire che non era male. Ho detto solo, mi siete arrabbiati, ho detto chiediamo scusa come attacco, certo, chiediamo scusa, amici cari, se non è scesa dall'aereo agghindata come piace a voi, chiediamo scusa. Dai. Incredibile, ti è venuta così però al volo, avevo davanti la foto di Silvia Romano, sì. Poi quando abbiamo queste interviste mi ero preparato la foto dell'onorevole Santanchè, quindi ho messo a confronto e ho detto chiediamo scusa se non si è ma ovviamente se tu mi chiedi chi ti piace di più, dico ovviamente il modello Santanchè è il mio modello di... non ma, lei in quanto Santanchè ma vedendo, l'abito vedendo il modo faccia... di vestire comunque è incredibile, no, ma voglio dire, se tu mi dicessi qual è il io dico io sono più vicino a quel modello là ovviamente, ma no, che non è la donna Santanchè, ma è il come si veste. Cioè tu dici in questi giorni bisogna difendere la libertà di essere islamici, cioè la libertà di essere anche islamici. Ma quello è un pensiero occidentale, certo, l'Occidente è libertà, è libertà. Ma non quel modello lì, comunque. Specie una persona che è stata per 18 mesi in prigionia. Luigi da Roma, poi c'è anche Spatolino da sentire, eh. Luigi da Roma, poi c'è anche Spatolo, Andiamo di male in peggio, Comunque vai, chi c'è? Luigi, dai. Di male in peggio, onorato di parlare dopo la Santanchè, abbiamo scoperto che ha studiato molto, quindi abbiamo tanto da imparare. E, comunque, cioè, Beppe, per favore, una cosa ti chiedo, dimmi. Qualcosina leggila prima di affrontare un discorso in trasmissione. Sì, quella ragazzetta si è vestita in maniera normalissima, non è un vestito islamista. Esatto. Allora, sono preoccupato se invece. Allora, amico mio, quella là non è stata. Esatto. Non è, ma è Luigi da Roma, caro Luigi, quel vestito là è un vestito che non le è stato dato in una scuola coranica di persone liberali, no, certo, aperte, eccetera. Le è stato dato. Beh, il vestito è stato dato da signori che sono dei tagliagole. Ma è come il kimono. Beh, come il kimono. È come il kimono. Ed è un affronto per le donne somale che invece sono sotto il giogo, sotto il giogo di questi terroristi, quel vestito lì. Quel vestito lì è un affronto. È un affronto. È un signori, affronto. Perdonatemi, purtroppo ovviamente il tuo alter ego, che più che giornalista lo chiamerei giornalaio, ha studiato. Ma non poco, tu puoi dirmi quello che vuoi, questa trasmissione è fatta per tirare le pietre anche ai conduttori, ma qui non è un problema. Signora Romano. E che subito svia il discorso, vedi? Prima ha detto la cazzata, poi svia il discorso. È un abito indossato da chiunque. No, no, non è vero. Dalle donne somale. Sì, non da tutte le donne somale, non dire cazzate. Luigi, dimmi. Ma non c'entra un cazzo, allora, le donne somale, a parte che parli quando lo dico io. In una forma ancora più grave, quella che definitivamente l'Italia delega a un paese come la Turchia. Questo anche, non c'è dubbio. Tutti quanti quelli che sono gli interessi geopolitici più importanti. Ma questo è un altro discorso, dimmi allora. E questo è un altro discorso, ma non è la sede per parlare. Vabbè, allora... anche perché non c'è... E quindi, e poi la ragazza, ma quale vestito islamico? È non un è un vestito, vestito islamico. Tipico di quelle zone. Non è un vestito islamico, hai ragione tu. Non è un vestito islamico. Ma non voglio dire questo. Non è un vestito islamico, è un vestito di grande libertà. È un vestito, ma come dire, che si, è un vestito del mondo occidentale. Libertà. Ragazzi, ma se vi piace quella roba là, ma se vi piace le donne a me messe non così, piace, ma e allora basta. Quello è un simbolo dell'oppressione della donna. Che ti piaccia o non fare questioni, ma ragazzi, ma non è stato. Ma non ha Luigi, Luigi, Luigi, non ha dato Luigi, modi, Luigi, ma non mi sembra che i concetti siano ripeto, l'abbigliamento della tradizione femminile somala, appunto, è l'abbigliamento della tradizione femminile somala, appunto, punto, punto. Ciao Luigi, ciao. Guarda, aspetta che ciao. Ciao, ciao. Ma che vuoi? Che decidi te? Che decidi te quanto parlare? Ma parla una volta. Cioè, il discorso lo vuoi affrontare o no? Ma non cosa? Puoi quale discorso? Mistificare la situazione. Ma poi mistificare cosa? Mistificare state che cosa? Quello è un simbolo di oppressione. Ragazza, ma non sto attaccando nessuno. Comunque è un ottimo lavoro quello che hai fatto, perché giustamente dagli accordi hanno liberato una persona, hanno vi stanno buttando fumo negli occhi e tu sei involontariamente agente di questa azione. L'agent provocateur. No, e dall'altra, ciao, dall'altra lui, stai commentando una manica di ignoranza. Allora, a proposito di personaggi un po' bizzarri, diciamo pure degli imbecilli, possiamo dirlo apertamente, Parenzo, no? C'è questo consigliere comunale di Asolo, meno già male, protagonista di altre vicende, il quale in maniera molto sobria ha dato ha detto impiccatela. E tu zitto. E tu libertà di parola. Ma cosa significa libertà di parola? Incredibile. Ma... incredibile. Io vorrei sentire quell'avvocato di Padova che un giorno che Nico non è mio fratello Basso così chiama, vorrei Basso veramente sentire quell'avvocato di Padova cosa pensa di questo tuo concetto di libertà di parola. Guarda, ho una voglia di mobilitare questo avvocato padovano che Sei un coglione. Nico Basso ha scritto impiccatela. Poi risulta anche che abbia scritto un'altra cosa, zitto, no? Abbia scritto un'altra cosa, quella troia, sempre riferito alla signora. Ma è un politico questo qua, no? È un consigliere comunale venetista, cioè indipendentista veneto di Asolo. E tu zitto, per te ma non sto zitto, parola, ho detto questa, che è un coglione. No, per carità. Impiccatela è una cazzata, una coglionata, una boiata, una porcheria. Impiccatela, un'altra troia che ci è costata 4 milioni. Così avrebbe scritto: impiccate Silvia Romana, un'altra troia che ci è costata 4 milioni. Così ha scritto questo signore. Lo chiamiamo, che dici? Chiamiamo. Pronto? Basso? Sì. Cruciani, ciao. Che dici? Facciamo chiarezza? Voi non mi conoscete, sicché non sapete neanche tranquillamente con chi state parlando, nel senso che io sono una persona un po', come dici, caratterialmente focosa, molto sì, espansiva, fa parte del mio carattere. Allora, vabbè, sì, che anche un bambino avesse capito che quando ho scritto quella frase fosse una figura retorica. Beh, impiccatela però, come fa? Impiccatela, non può essere una figura retorica. Sì, però. Ho capito. Quel sistema ce l'ho, non è che ce l'ho con la ragazza, perché neanche la conosco. Buttare via 4 milioni. Con quale sistema ce l'ha? Scusa, mi faccia capire. No, aspetta solo, scusami tanto, Nico, io voglio capire una cosa. Quando uno scrive impiccatela e dice anche un'altra troia che ci è costata 4 milioni... voglio dire, non ci sono molte discussioni, cioè nel senso, ti vuoi chiedere scusa? Allora, ditemi dove, cioè voi lo immaginate la parola, che può essere anche quella, ma non è che l'ho scritta, io sono contestato sulla parola che è scritto impiccatela. L'altra non l'hai scritto? L'altra l'hai scritto o no? Non fate come l'altra volta che vi metto giù. È questa, l'altra frase, l'hai scritto o no? Ma chi si ricorda? Non so più, Facebook mi ha cancellato tutto. Come non ti ricordi? Che ho tolto il post, io non ho tolto niente, io non tolgo mai niente. Dunque non ti penti di quello che hai scritto? No, ma io scrivo, io ti ho detto, augurare la morte, magari impiccatela a una, anche no. Allora? Io devo anche chiedere scusa perché mi prendo sempre le mie responsabilità. Però dici? Però dico, l'ho scritta sì, l'ho buttato fuori quando ho capito sto soldi di riscatto, queste famiglie in crisi. Imprenditori che già siamo arrivati a 15 suicidi e pensi a sti soldi che potevano aiutare qualcun altro. Non ho detto non dovevano aiutare lei, per l'amor di Dio. Tu stai dicendo che hai scritto questa cosa qui incazzato perché questi soldi sono andati ai terroristi per liberare una che si è presentata vestita da islamica, questo dici? No, non vestita da islamica, attendi, non capovolgete la frittata, non vestita da islamica. Che abbiamo finanziato i terroristi, punto. Sì, però voglio dire, la frase impiccatela, la frase impiccatela di quella troia, poi perché troia? Ma ti penti, come si permette? Ti penti o no? Non fatemi mettere giù il telefono. No, ma non sto buttando giù. Ma cos'è da mettere giù il telefono? Stiamo discutendo, che non sarebbe neanche da discutere, ovviamente. Ascolta Cruciani, io ti ascolto. Dimmi, Nico. Ma io voglio capire che cosa ti è uscito. L'unica cosa che mi piace è che sei juventino. Questo sì, che difendi sempre la Juventus. Va bene, io voglio capire una cosa. Perché che cosa ti è uscito in quel momento per scrivere impiccatela? Cioè, qual è la cosa che ti è uscita fuori? Qual è la vena che si è mossa? Allora, nel frattempo ti girano tante cose per la testa, ti gira le Simone, ti gira i Marò, ti girano tante cose. Sì. I Marò non sono stati aiutati come questi, qua 4 milioni buttati al vento. Dovrebbe arrivarci una persona stanca, arrabbiata, fiacca, incazzata, invece è arrivato semplicemente una persona tranquilla, bella, pasciuta. Beh, come era vestita non me ne frega proprio niente. Cioè, tu dici è arrivata tranquilla, che sembrava fosse venuta da una... devo preparare il consiglio comunale. No, ma dico che sembrava fosse venuta... Ciao. Posso dire una cosa? Tu andresti... Che cazzo fa? Basta il telefono così, questo qua. Richiamiamo, come dai. Si permette? Richiamiamo. All'attacco, vai. Rispondi tu. Eh? No, io sono Parenzo, con Cruciani. Ti devi solo vergognare. A me sarebbe bastato che tu dovevi... Mi vergogno. Sei da prendere a calci nel culo, tu. Altro che per usare il tuo linguaggio. Tu sei da prendere a calci nel culo. Altro che... Questo è il linguaggio che tu capisci. Tu l'unico linguaggio che capisci è questo. Hai detto che deve essere impiccata? Hai detto che è una troia? Tu sei da prendere a calci nel culo, ma non metaforici. Veri. Veri, allora, niente, ti allora dovresti vergognare, devi chiedere scusa. Usa questo spazio che ti abbiamo dato per chiedere scusa. Fallo parlare, dimmi. Sai cosa devi fare? Allora, mettiamo una cosa a posto, una alla volta. Sì. Prima, se qualcuno deve darmi calci in culo, caro Parenzo, già non ti guardo la TV perché non ti dico che senso mi fai. I calci uguale in culo me li vieni, esatto. Sì, da dare proprio. Uno che scrive quelle cose là, capisce solo quel linguaggio là. Solo quel linguaggio là, capisci? Tu non capisci un altro linguaggio, perché uno che ha scritto troia e da impiccare. Fallo parlare. Chiedi scusa. I love facciamo così, caso Silvia, facciamo che sia stato al contrario, che era stato sequestrato in Italia e tornava là. E penso se era stato sequestrato in Italia e tornava là, si era convertita al cattolicesimo. Vediamo cosa gli facevano, la facevano secca. Invece qui, anzi, qui, poverino, oh, cosa avrà subito? Se succedeva il contrario, la facevano secca. Non è giusto secca, però sicuramente non è giusto neanche dire ah, va bene così. Cioè, come cazzo è messa questa? Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. La commercialista Pina Pitone. Pina Pitone. La corte mi comunica che pare gradevole la commercialista Pina Pitone, che hanno subito a sfrugugliare. Come hanno fatto già a indagare? Come hanno fatto? Vabbè, già c'è l'internet. Ah, hanno messo Pina Pitone, hanno messo Pina Pitone, che maiale, hanno messo Pina Pitone commercialista. Scusa, ma in che società vivi? Dove? Non ho capito. Qui ormai basta fare un nome e spunta, capito, comunque una foto almeno spunta. Viene, ma come ti viene in mente? Ma di come fare ti viene in mente? Ma è normale, uno evoca Pina Pitone normale, per giorni. Normale, ormai è diventato un minimo, domani la chiameremo pure la signora Pina Pitone. Ma come fa a rappresentare l'estetista là, come cazzo si chiama, Emilia Clementi? Esatto, questo è il punto fondamentale, dai. Comunque ragazzi, c'è una statistica oggi, non c'entra niente né col coronavirus, né con la Kenya, né con Silvia Romano. Aiuto. Una statistica è che ci sono 4 milioni in Italia di praticanti di BDSM, cioè di praticamente masochisti, cioè gente che si diletta con il masochismo, capito? Più o meno 4 milioni e mezzo di praticanti. Beh, sono un po' i voti che in genere vanno un po' al centro. Quanti sono? 4 milioni? 4 milioni? Beh, ma che c'entra? Scusa, cosa i masochisti c'entra? È un po' l'elettorato del centrodestra in fondo, mi pare. Comunque no? Questi giochi questi giochi non sono una questione di intensità, cioè i giochi del masochismo nel sesso non è una questione di intensità, cioè di grado di violenza. Volendo si possono fare cose estreme naturalmente, ma il punto è trovare cos'è che emoziona le due persone e vi fa sentire una cessione del controllo. Magari basta solo fare sesso bendati, cioè la cosa fondamentale è la cessione del controllo, capito? L'unico elemento fisso è che uno dei partner si renda ricettivo agli stimoli decisi dall'altro e che questo costruisca un percorso di sensazioni ed emozioni strutturato. Poi uno può fare quello che vuole, si può fare schiacciare i coglioni come fanno persone che abbiamo intervistato più volte in questa tradizione, oppure possono semplicemente utilizzare, che ne so, delle manette, delle bende, cioè ci sono. E da qui si arriva al numero di 4 milioni e mezzo, capito? Da qui si arriva a questo numero. Per carità, non devi discutere queste cose. No, in queste cose sono scienza, come sai. Se uno si vuole far schiacciare, evviva. Cosa vuoi che ti dica? Sasha, provincia di Trento, vai. Ah, ciao Cruciani. Dimmi Sasha, dimmi. Volevo dire una cosa qua sulla signorina Aisha. Sì, Aisha, sì. Aia. Perché Aia? La vedo brutta. Perché Aia? Perché la vedi brutta? Si chiama Aisha, voce, o no? Già dalla voce. Sì, si dice che già dalla voce la vedo brutta. Comunque. Sostiene che vuole essere chiamata come Aisha, che ripeto, la sposa Aisha, la sposa Maomet, la sposa bambina del profeta. Bambina del profeta, sì, bambina. Aggiungi bambina, non dire solamente sposa del profeta, la sposa del profeta, bambina del profeta. Neghi anche ragazzi, è un testo che è stato scritto qualche annetto fa, sì, qualche anno fa, sì, qualche ma anno anche fa. Contestualizzato dimmi, rispetto Sasha. A quando è stato scritto, diciamo. Dimmi, ascolta, Sasha, dimmi. Volevo dire una cosa, dimmi. Io posso Sasha, capire sì. Intanto che cosa era puoi lì capire tu? Che ha cambiato la religione, che si è messa sì. Quel vestito e tutto, sì, per salvarsi la pelle, l'avrei fatto sicuramente anch'io. Questo però, non lo sappiamo. Lei dice che non l'ha fatto per salvarsi la pelle. Non riesco a capire, però. Una volta è tornata qua, sì. Che cazzo ce lo tiene a fare? Io ci avrei pissato sopra, cagato sopra. No, che cosa ci avresti cagato ma sopra? Ecco, no, il classico. No, allora tu dici che quella roba lì, ho capito, ma evidentemente quella ci crede in quella roba là, e dunque perché ci dovrebbe pisciare sopra? L'hanno tenuta prigioniera per tutto quel tempo, questa è la grande contraddizione, per ringraziarli, ma io per ringraziarli ci avrei pisciato sopra. Sì, questo si è capito, fatemi abbiamo capire già capito. L'Occidente libero, fatemi capire, non voglio dire parolacce, sì, l'Occidente libero è quello che è espresso da questo signore, cioè noi sì. Abbiamo lottato per dare la libertà a questo signore di pisciare sul vestito di una che è appena scappata dalle mani dei terroristi. Lui ha detto avrebbe, cioè, avrebbe. Questa è la libertà? Noi abbiamo dato la libertà, abbiamo, certo, cioè, abbiamo libertà combattuto di espressione, perché questo signore, questo sottosviluppo chiami in una radio libera per dire questo qui chiama per dire che lui avrebbe, questa è la libertà, no, quella di pisciare sul vestito, questa è la roba ad un simbolo, ma di opera, viene prigioniero, ma... e te per ringraziarli cambi la religione, ti metti al vestito e tutto, ma dai, ma non, infatti, sappia, ma è una violenza, ma lei cosa ne sa, lei che cosa ha capito, lei di questa storia, su quali giornali si è informato, lei, per farsi un'idea, quali trasmissioni ha visto, cosa informarsi, basta vedere, basta vedere lì fuori dal coro, certo. Io proverei a chiamare Oliviero Toscani su questa vicenda, non so perché, mi è venuto così in mente. Chiamiamo Oliviero Toscani dopo un po' di tempo. Vediamo. Sentiamo se è caldo, sentiamo se è caldo. Pronto? Sì. Oh, Oliviero, come stai? Quella, come stai, amico? Grande. Dammi una mano, Oliviero, perché qui da ieri da solo a combattere contro questi razzisti che insultano Silvia Romano. Ma cosa fai nella fossa dei leoni? Che leoni? Nella fossa dei pirla. Ma che fossa dei pirla? Cioè, è la libera opinione questa qua, libere opinioni. Ma non è libera opinione, avete solamente un'opinione lì di maggior grande maggioranza di teste di cazzo razzisti. Ma chi? Una minoranza. Ma no, chi? Ma è vero. Tutti, non è vero, purtroppo non avete. Ma che dici? Qui c'è la libera circolazione di idee, libera circolazione di idee, di opinioni, delle cose pazzesche hanno detto su quella povera ragazza. Siete proprio diventati il posto, la fogna d'Italia. Ma, sì, ma quale fogna d'Italia, di che cosa? C'ha ragione, tu dici di no, tu di no, io ti dico di sì. Ma che dici? Ma parliamo di qualsiasi cosa noi, Oliviero, parliamo di qualsiasi cosa noi, di sesso, di politica, di società, di buco di culo, parliamo di qualsiasi cosa. Non lasci parlare. Ma figuriamoci se non lascio parlare. No, non mi lasci parlare, mi chiami, mi rompi i coglioni e non mi fai parlare. Ma no, come no? Ma no, scusami, no, ma che c'entra? Ah, è impazzito completamente, richiamiamolo, Oliviero, è impazzito, non lo lascio parlare. Qui è il posto dove ha parlato sempre, rompe i coglioni lo interrompi, adesso. Lo interrompi. Ma che interrompa, che è? Feltri? Che fa? Feltri, dai, su. Pronto? Ma io non volevo mica non farti parlare. No, ma se non fai parlare. Ma figuriamoci se io non ti faccio parlare, ti ho fatto sempre parlare. Fai parlare o no? Ma voglio capire che impressione ti ha fatto l'arrivo di Silvia Romano, che è stata criticata per l'abito islamico, eccetera, eccetera. Questo volevo sapere. Sai che impressione mi ha fatto? Che siete una massa di figli di puttana. Cioè, in che senso? Voi. Questo ma non voglio neanche fare criticare lei. Le critiche fatte a lei sono veramente ignobili. Cioè Feltri, Sallusti, da castrati, da poveretti, stronzi. Ma a chi ti riferisci in particolare? Cioè, a tutti quelli che la criticano. Ma perché non si può criticare un fatto pubblico? Non in quel modo lì. Ma non in quel modo lì. Quale? A cosa ti riferisci in particolare? Non puoi sparare nel mucchio. Cioè, a cosa ti riferisci in particolare? No, sparo nel mucchio, perché lì proprio non ti sbagli, sono tutti dei figli di puttana. Ma a chi ti stai riferendo? Chi ti stai riferendo? A chi in particolare? Che ne so, L'hanno insultata mediaticamente. Ma quelli che l'hanno insultata, l'hanno insultata, punto e basta. Io voglio dire che si è presentata come con gli abiti. Insultata, punto e basta. Cosa cazzo? Ma quelli web sono dei coglioni, quelli. Ma quelli sono degli imbecilli. Ma dire che si è presentata con l'abito del nemico non è un insulto. Dire che si è presentata con l'abito dei terroristi non è un insulto. Visto che tu sei così tollerante, sì, che cavolo te ne frega te l'abito? Perché è l'abito del nemico? Perché quello è l'abito dei terroristi. Non è l'abito dei terroristi islamici. Allora, è l'abito delle donne somale. No, non è l'abito delle donne somale. Ma sono cosa me ne frega che vestito si è presentato? Cazzi suoi. A te piacciono una donna islamica vestita così, tutta coperta? Ma ti piace? Non faccio nessun giudizio. Non do nessun giudizio. Ognuno se sono vestiti come vuole, sceglie quello che vuole, giri in pigiama, giri in mezzo nudo, non ne frega niente a me, mica giudico per quello. Per esempio Sallusti ha detto che è come se un ebreo si presentasse fuori, liberato dai campi ma di sterminio. Ma Sallusti, il cervello di Sallusti, ormai conosciamo tutti che perché? Di testa ha. Ma perché? Non ho capito, non si può dire una cosa. Ascolti Sallusti. Ma perché? Ma non può... dice, dica quello che vuole, cioè... io penso che è un cretino. Cioè, vabbè, è un cretino perché dice semplicemente questa cosa qua, che ma è come sì, presentarsi con un abito da nazista. No, ma perché è troppo facile fare queste definizioni, così, proprio da uno che non so, per vendere il suo giornale si sa cosa farebbe. Feltri dice: mi appare assurdo e paradossale aver salvato una giovane donna che simpatizza per coloro che l'hanno imprigionata e trattenuta sotto le grinfie islamiche. Questo nemmeno si può dire, secondo te? Digli a Feltri che può ancora imparare tante cose nella vita. Ma dal punto di vista tantissime. Ma tantissime cose. È una... non ho capito perché devi dare dei figli di puttana a persone che la pensano in maniera diversa da te. Questa ma no, è la cosa che penso. Io non ho dato figli di puttana a nessuno. Beh, insomma. Dico solamente che questi qua si permettono di dare dei giudizi, sono loro che iniziano il gioco del figlio di puttana, sono loro che iniziano a insultare qualcuno. Ma insultare non rientra nei loro cavi. È un fatto pubblico il fatto che una si presenta vestita con abiti no, islami, e in particolare di un gruppo terrorista, lì abbiamo pagato 4 milioni di euro di riscatto, e dice di essersi convertita, che vuole tornare in Kenya. È un fatto di cui si discute. Ma un cittadino italiano tornato in Italia, appunto. Ma cosa, non rompete le palle. Ma se tu sei contento di aver tirato fuori dei quattrini, ma sono va benissimo. Tu sei contento di aver tirato fuori questi quattrini? Sì, evidentemente. Sei contento che sono stati pagati dei soldi per salvare una persona? È legittimo, per carità, è legittimo. Se fosse quello lì grande spesa, confronto i coglioni che ci abbiamo in giro, che paghiamo tutti i giorni, mamma mia. Sì. Ma ho capito. Ci sono delle priorità. Cioè, salvare la vita umana. Il fatto è che con quei 4 milioni si poteva pagare l'istruzione di questi qui, ma non sarebbe servito a nulla, purtroppo. Ma purtroppo non. Ma chi vi riferite poi? Io non capisco questi, a chi vi riferite. Questi quelli che odiano e quelli che hanno fatto quei titoli su questi giornali sopracitati, di cui non voglio neanche parlare ulteriormente. Non sono mica giornali quelle robe. Cioè, libero e cosa non sono giornali? Il giornale Libero non sono giornali, secondo te? Che cosa sono? Il vernacoliere divertente. Sì, sono giornali. Non sono giornali, va bene, ha deciso lui che non sono giornali. Satirici, satira. Gli piace l'immagine islamica di una tutta coperta? Se ti piace l'immagine di un'islamica tutta coperta, ma non è che mi piacciono, ma che discorso è? Mi piace o non mi piace? Non è questo di piacere, vedi, a loro non piace. Io non ho detto niente, non è storia a dire mi piace o non mi piace, mi fa riflettere senza arrivare a questo modo di giudicare la gente frustrata. Ma quello che fanno quei giudizi, la gente frustrata. Ma perché? Non ho capito. Perché non si può pensare fatto che diventa pubblico, evidentemente pubblico, cioè con una persona che si presenta in un certo modo, diventa oggetto di dibattito, punto e basta. Dov'è il problema? Oggetto di insulti, no, oggetto di scherno. Di aggressione, non è dibattito. Non è stato un dibattito, è stata un'aggressione. Un'aggressione. Dai, non vieni là. Sul web c'è qualcuno che l'ha insultata, d'accordo, ma quelli sono delle... D'accordo. No, ma sono delle teste di cazzo queste qua, d'accordo? Infatti gli danno la scorta, vedi, forse. Roba da matti, no, ma è vergognoso. Vabbè, è vergognoso, sì, ma certo. Non è da paese civile. No, è da paese civile. Vabbè, ciao Olivia. Ciao. Volevo dire a Miss Amazzonia che è facile averli di 10 centimetri a causa del coronavirus. Ne deve fare uno stile di vita come il mio, sennò non è nessuna. Ad Maiora! Ad Maiora, amico mio! Cazzo, mi sono ricordato. Ecco qua, mi sono ricordato. Lo sapevate che la maggior parte delle attrici che fa anale non mangiano il giorno prima? Non mangiano il giorno prima, che professionalità, è giusto, perché se no, se si fanno un doppio cheeseburger e tutto quello che viene dietro, il giorno dopo ve lo passano paro paro. Quindi ragazzi, povere ragazze, vedete un po', per fare il porno quanto devono soffrire, oltre al sesso anale, anche la dieta, molto molto molto rigida. Rigida deve essere. Ciao. Guardate la schiena, vedete che taglio? Oh, e ve l'ho detto, poi se fate troppo sesso vi succede questo, poi non vi lamentate che vi fa male la schiena. Ragazzi, mi sa che mi sto rincoglionendo con questa cazzo di quarantena, ma a voi come va? Come cazzo va? Grande Max. Ciao Rocco. Mario dalla provincia di Ancona, avanti tutta, vai. Oh, ciao, vai. Cruciani, ascolta, quel pezzo di merda di prima che diceva impiccatela. Sì, sì. Intanto si dovrebbe prendere lui la responsabilità di impiccarla. Beh, sì, insomma, per vedere se c'ha il coraggio. Non lo, non, sicuramente, se le mani. Sicuramente non ce l'ha il coraggio, amico mio. Ecco. Poi un'altra cosa, una considerazione che ho fatto è che la signora Romano è vittima anche della sindrome di Stoccolma. Non lo sappiamo, amico mio, non lo so, se ne dicono di tutti i colori, per cui non lo possiamo sapere. Qualcuno dice di sì, vabbè, altri dicono di no. Arrivata. Dunque, le scelte non mi interessano. La risultante di tutta quell'aggressione che c'è stata in questi giorni. Ma non c'è stata, al di là del web, degli insulti. La risultante è la violenza verbale che è stata fatta nei confronti di, allora, ragazzi, signora. Innanzi, cioè, voi vi rendete conto, voi vi rendete, ma quello che c'entra, ma quella è una porcheria, quella è una porcheria, che abbiamo criticato. Posso dire risultante di che cosa? Di che, ciao, cosa? Cruciani. Sì, no, voglio dire una cosa, pare che i PM abbiano messo tra le cose, diciamo, nelle indagini sull'odio nei confronti, sulle parole anche d'odio Sgarbi, nei confronti di Silvia Romano, anche le parole di Sgarbi. È una cosa ridicola, ma certo, cosa, certo, ma certo, e lui dice certo. Purtroppo, dico, perché tu non puoi giustificare quello, facevo un ragionamento su tutta libertà. Ma quello faceva un ragionamento, un paradosso sulla ovviamente questione di arrestarla. Non sarà perseguito per questo, perché sono i suoi soliti paradossi. Quindi non sarà. Non diciamo stronzate, però, dai, una cosa è dire arrestatela per collaborazione con l'Islam. Sono due cose completamente diverse, dai. Però anche lì, come si fa a dire collaborazione con l'Islam, una che è stata prigioniera 500 ma voglio dire, ma come si fa a dire un altro discorso? Ma mettere sotto indagine Sgarbi, non so per quale reato, come sembrano vogliono fare alcuni PM, per questa roba qui è ridicolo. Sgarbi si sa difendere da solo. Tu hai i tuoi avvocati, quelli di a buon diritto. Non ti preoccupare, perché devi difendere Sgarbi? Sgarbi si difende benissimo da solo. Puoi anche dire, caro Vittorio, in questo caso hai detto una sciocchezza iperbolica. Allora, ragazzi, adesso vi presento una persona. La premessa è questa: la modernità, l'Occidente. No, ma non ti preoccupare. La modernità, l'Occidente, è parlare di sesso liberamente. Questo è il punto fondamentale. Cioè, parlare di sesso liberamente è una delle cose basilari della nostra società. Cosa che in una società invece come quella che è identificata dall'abito della signora Silvia Romano non sarebbe possibile, diciamola tutta. Ti ricordo che il libro Le Mille e Una Notte è nato qualche tempo fa proprio in quella civiltà che tu attacchi e continui a rappresentare in modo sclerotizzato. Stai rappresentando l'Islam. Allora, in Somalia, l'Islam non è allora, solo in quello Somalia radicale. Si può parlare Le Mille e Una Notte lo hai mai letto al liceo classico, che hai fatto anche tu come me? È incredibile. Le Mille e Una Notte. No, ma lo hai mai letto al liceo classico? Le Mille e Una Notte te l'hanno fatto leggere? Comunque, Le Mille e Una Notte l'hai mai letto o no? Ma sì, ma che c'entra? Dai. Abbiamo con noi una dottoressa, una sessuologa, psicoterapeuta napoletana, Marinella Cozzolino. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Come a voi. Stai? Come stai? Bene, bene. Allora, fino a 10 minuti fa bene. Beh, che senso? Adesso sei stata travolta dall'onda della zanzara. Travolta dall'onda di questa trasmissione. Allora, voglio chiederti subito una cosa, perché so che su questo tema qua ti sei già espressa. Ma è vero che i giovani andiamo verso una società in cui praticamente non ci sarà più una vagina con il pelo? Non mi dare questa delusione. Non mi dare quanti questa delusione, perché io ho 53 anni. E allora, ecco qua, è quello il punto. Cioè, è sono una questione vecchio. Di età. No. Sei cresciuto con altre immagini, mettiamola così. Sei abituato ad un tipo di vagina che oggi i ragazzi non vedono più perché la moda la vuole in un altro modo. Quindi un ragazzo che oggi ha 20-25 anni vede da sempre una vagina depilata, una vagina pulita, una vagina molto infantile, ecco, mettiamola anche così, per certi adulti, no? Quindi all'occhio di un adulto quella è una vagina infantile, bambina. In realtà loro non sono proprio abituati e immaginano una vagina pelosa come qualcosa che assomiglia di orripilante, a qualcosa qualcosa sì, di antico, troppo, di vecchio, dei nonni, che ne di so. Troppo nascosto, veramente un bosco. Ah, in addirittura un bosco, un bosco. È la differenza tra il maschio e la femmina. Questo no? È interessante, cioè i giovani vedono quella roba lì come un bosco dove ci... Sì. E dunque? Una cosa che non vedo bene, quindi non so dove vado, no? Sì, perché c'è stata la deforestazione, certo. C'è l'inquinamento, è vero, questo è un tema ambientale, sta ponendo la signora, la dottoressa. No, la dottoressa pone un tema ambientale, del fatto della deforestazione, è un tema enorme la deforestazione, certo. I genitali femminili sono interni, per cui già per molti uomini c'è questa angoscia, quest'ansia della vagina come... Sì, ma tant'è che no, questo è vero, cioè nel senso la vagina con molti peli dà ai giovani che non sono abituati una sensazione di buio, di cosa che non possono conoscere, di ignoto. Posso, l'ignoto, posso aggiungerti diciamo una cosa così? Sì, dimmi. Diciamo anche ai giovani delle cose un pochettino, come dire, più dette meglio. Allora, in realtà la vagina non si chiama vagina, si chiama vulva. Vulva, sì, stavo dicendo vulva. Quello che noi chiamiamo vagina è il canale vaginale, che sì, è vero, la, la vulva, interna. La vulva, okay, sì. Okay. La vulva. Per cui andiamo verso, cioè, tu mi stai dicendo che andiamo sostanzialmente, passata la mia generazione, andiamo verso una società in cui non ci sarà più una, ovviamente con le dovute eccezioni, non ci sarà più una donna con il pelo. Per il momento non se ne parla. Cioè il pelo si estinguerà. Si rifiutano, assolutamente. C'è proprio la fobia, ma non scherzo. Ovviamente io da sessuologa vedo la parte un po' patologica della sessualità. E quello che posso dirti è che sono in aumento proprio le fobie legate alla peluria. Cioè? Sia per l'uomo che per la donna. Cioè il pelo diventa una cosa che fa schifo, che dà fastidio proprio... dermatologicamente, epidermicamente. Però è interessante questa cosa della generazione, cioè effettivamente tra i 20 e i 30 anni, diciamo, di oggi, è difficile trovare amanti del pelo tra i giovani, no? Tra i maschi, per esempio. E le donne stesse si adeguano e sono già dall'età di 18 anni, 17, 18, 20 anni completamente rasate. Certo, ovviamente c'è una spiegazione a questo. Calcola che l'età media del primo rapporto sessuale negli ultimi anni è abbassata, sì. No, si è alzata di tanto. E dunque? Siamo su una media di 17 anni e mezzo. E dunque? Quello che si è abbassato tantissimo invece è l'età del primo contatto con la sessualità, quindi la prima volta, la prima toccata, la toccatina, diciamo. No, magari che vedono delle scene forti, esplicite di sesso, e ovviamente questo accade grazie a internet, no? Sì. E quest'età in genere è tra i 10 e gli 11 anni. Addirittura. Motivo per cui dai 10 a 11 anni fino ai 17, 16, 17, quando poi c'è il primo rapporto, questi ragazzi crescono con una serie di immagini molto forti, a volte al limite del pericoloso, ma che raccontano tutte la stessa vagina, in realtà. Sì, perché non esiste, diciamo, a meno che uno non vada a scegliere dei siti particolari, eccetera, però la maggior parte... Le ragazze giovani, le attrici anche hard giovani, i filmati amatoriali, propongono tutti più o meno un corpo fatto nello stesso modo. Hai capito, quindi Parenzo? La loro eccitazione basata su questo. Senti, voglio chiederti un'altra cosa invece, su cui ti sei già espressa, che è questa. C'è ancora la fissazione degli uomini per le tette enormi? Perché ecco questo qui, è fondamentale. Felliniano, cioè, un tema felliniano. Beh, molto felliniano, sì. Cioè, abbiamo parlato di pelo, adesso parliamo di un'altra cosa molto interessante. La gradisca, interessante. Ti ricordi la gradisca, no? E come no, certo. Molto interessante, è una cosa molto maschile questa. Allora, anche lì, purtroppo siamo sullo stesso... Purtroppo no, no, non è vero, purtroppo. Siamo sullo stesso discorso. È una questione generazionale. L'uomo di una certa età ancora vede, è fissata innanzitutto il seno. Il ragazzo più giovane assolutamente no. Che guarda il culo. Sempre che guarda. Sui grandi. Esattamente, si basa un po' di più sul lato B e associa il seno molto grosso alla donna transessuale. Addirittura. Sì, quindi... questo stiamo sempre parlando però di grandi numeri, ovvio. Sì, beh, certo, poi ci sono anche le eccezioni. Gli individui, la sessualità è fatta da individui, è fatta soprattutto di qualcosa di dinamico. La sessualità non è mai stata. Cioè, tu mi stai dicendo che praticamente il mito delle tette grosse anche qui va ad estinguersi, ormai non gliene frega più. Appartiene ad una certa età e i ragazzi amano il seno, ma non il seno enorme. Sì, quindi, effettivamente anche questo io, come dire, copro più generazioni dal punto di vista della mia conoscenza, certo, personale. Maestro, certo, copro più generazioni, quindi, effettivamente sì, ho notato questo, effettivamente. Ho notato che tra i giovani non c'è più il mito della tetta grossa. Cioè, magari piacciono altre cose, il culo sicuramente piace più della tetta grossa, eccolo su questo qua, non c'è dubbio. Eccolo qua l'inchiesta. Però un'altra, l'ultima cosa che è questa, dettagliatissima. Piacciono molto, per esempio, delle cose a cui prima si pensava molto meno, che erano molto di nicchia, per esempio i piedi. Amica mia, no? Qui sfondi senza una po'. Arrivare sta parlando con un professore. No, come stiamo parlando proprio in termini generali. No, ma stiamo parlando non in termini generali, stiamo parlando in termini di malattia mentale. Io ho una malattia mentale per questa roba qua. Cioè, devi sapere, cara dottoressa Cozzolino, devi sapere che io non riesco qualche volta ad eccitarmi abbastanza se vedo un piede brutto. Cioè, siamo a livelli patologici. Esattamente. E al è contrario. È molto diffusa questa cosa. È molto, sì, abbastanza ma diffusa. Ma sicura, dottoressa, questa cosa di Cruciani, sicura o... No? No, non si deve curare, no, ma non si deve curare. No, no, non c'è nulla da curare, è un gusto, è un'attrazione. Sì, ecco, però posso dire una cosa, lei come la giudica una cosa del genere? Cioè, praticamente io, durante un atto sessuale, molto spesso osservo attentamente i piedi della persona, cioè molto attentamente, per vedere i loro movimenti, per vedere la forma, eccetera, certo, eccetera. La sinuosità, l'armonia, cioè, ma li osservo attentamente durante anche l'atto sessuale, cioè, ho proprio una malattia da questo punto di vista. Che roba è? Sì. Lo so, una... ma mi preoccupo ogni tanto. Sai, no, no, no, è sono una malattia. Dica che è una malattia. No, no, ovviamente non lo sono fisiologicamente, ma sono diventati proprio un elemento di attrazione sessuale. Faccio un esempio spostandoci su un altro piano, così sì, ci capiamo bene. Sì. È come se, stando a letto con una donna che mi piace moltissimo, che è bellissima, eccetera, eccetera, a un certo punto io mi rendessi conto che ha un alito pesante. Sì, sì. Oppure che ha un alito profumatissimo e mi piace il suo odore, no? Oppure quindi, che hai i peli sotto le ascelle, che ne so, che però a me piacciono, per esempio. Però, esattamente, quindi dipende molto da quello che rappresentano i piedi per me, l'importanza che io do. E l'uomo, è l'uomo cui piace, è l'uomo cui piace, qualcuno dice che è un prolungamento del pene, dunque c'è pure un'immagine, diciamo, un po' ma gay. Sì, perché i piedi sono insieme al naso e al pene l'unica cosa e l'idea invece di leccarli, cioè di utilizzarli dal punto di vista sessuale, ecco, in quel modo che cosa significa concretamente? Ma è uno strumento di piacere. È solo uno strumento di piacere, non mi devo preoccupare. È uno strumento di piacere, cioè, e tra l'altro sono molto valorizzati anche in questo senso le donne ultimamente, no? Beh, sì, quindi assolutamente. Tacchi la scarpa di un certo tipo, sì. Però posso dire una cosa, lei quando se uno in un rapporto sessuale volta c'è lo sguardo che va verso i piedi e viene un po' rimproverato, ma dove stai guardando? Quello è un mio problema, per esempio, dove stai guardando? Certo. Sto guardando i piedi, amica mia, perché se guardo i piedi la potenza sessuale aumenta. Ma non c'è nulla di diverso rispetto al guardare il seno, questo le voglio dire. Non mi devo preoccupare. Allora, sicuramente il seno, il sedere, la vagina sono organi di richiamo sessuale primari. Sì, okay? Quelli sono però secondari. Le labbra. Mi devo preoccupare piedi, di questa cosa dei piedi? Mani, mi devo preoccupare? Assolutamente sì, no. Diciamola grazie, così, grazie, dottoressa, grazie. Che è un signore che guarda i piedi, fa una trasmissione coi piedi, che infatti è quella che è andata appena in onda. Grazie, anche questa sera. Grazie, Cozzolino. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci, dottoressa. Questo è l'Occidente, non l'Islam, non la Somalia. Questo è l'Occidente. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN.